Cioè, ma la sai una cosa assurda di questa canzone? E dimmela. Praticamente io ho visto un documentario su Fela Kuti, no? Molto molto bello. Ma che cosa interessante. Sì, e ringrazio Paolo che l'ha trovato e ce l'ha fatto vedere. E praticamente c'è stato un momento in cui l'odio verso le forze dell'ordine, in generale verso tutto il regime che stava subendo lui personalmente e la famiglia, ma in generale tutta la popolazione del paese in cui abitava, in Africa, e fondamentalmente hanno scritto questa canzone contro gli sbirri. Cioè, i zombie sono gli sbirri? Sì, ma va. Perché stavano facendo dei controlli eccessivi, soprattutto per le persone alla guida, e quella zona era veramente tempestata da automobili. Mi ricordo le scene del film, erano incredibili, c'era un traffico pazzesco. E non ricordo bene di preciso qual era il movente, però ricordo che la scena era presente il figlio, e mentre raccontava diceva: io mi ricordo bene che quando uscì quel singolo, poi pensammo tutti, sicuramente ce la faranno pagare. Non vi dico come gliel'hanno fatta pagare, ve lo dico dopo. Suspense su Zona Rossa. A questo punto direi che il tempo è maturo per iniziare a registrare. No, ha già registrato lui, sei fortissimo. Quindi adesso dirò cose scollegate da prima, così poi lui farà fatica a montare dopo. No, non è vero, non lo faccio. Detto questo, Zona Rossa di oggi 25 marzo, un piatto ricchissimo di ospiti da telefonare, da disturbare, super ospiti, gente che arriva forse addirittura, cioè che in questo momento è a Novara ma arriva da Baggio. Oh mio Dio! Allora c'è qualcuno che non sapeva che andavamo in onda a quest'ora, ma d'altronde è soltanto la persona che ha fatto uscire il programma della radio, quindi giustamente poverino non poteva sapere che andavamo. Ha scritto il palinsesto di oggi, però fa niente. Esatto, non poteva mica saperlo che eravamo alle 19 in onda oggi, mentre lui scriveva oggi il programma per oggi, ma va bene così. A questo punto ci colleghiamo, come voi ben sapete, con chi unico può darci una lume, una conoscenza, una parvenza di ordine e disciplina in questo mondo malato, dalla quarantena soprattutto. Io adesso devo abbassare la musica completamente, se no si sente una mazza. Il mix l'ho attaccato, vediamo se ci risponde il carissimo Cigo. Puntuali. Buonasera. Buonasera. Come stai, carissimo? Ma bene, dai, si va avanti. Ascolta, una domanda flash. Ma se tu fossi nella casa di fronte e guardassi fuori dalla finestra, cosa vedresti oggi nella Sago Comunista Rivoluzionaria? Se fossi nella casa di fronte, vedrei casa mia. Bravo, grazie Cigo, buona serata. Ciao, ciao, grazie. È stato bello, grazie mille. E anche la prima telefonata è andata. Ma quanto siamo forti, Cigo. Io gli voglio veramente bene a quel ragazzo, sai, ti giuro, veramente. Cioè, grazie Cigo, grazie per queste perle, perché non potremmo iniziarla la puntata senza la telefonata con te. Ormai lo sappiamo, lo sapete, cioè è così. Lorenzo, lo zucchero sta impastando il mixer, cioè sei troppo, ti esce troppa dolcezza. Ti sì, per è anche... Perché sennò il glucosio qua fa inceppare i contatti. E probabilmente anche qualche problema nel canale dove teniamo il telefono, quindi mettete l'orecchio bene bene vicino alle casse o all'amplificatorino del vostro telefono. Vi ricordiamo che ci potete scrivere, perché noi riceviamo i messaggi solo dal gruppo redazione e sinceramente è bellissimo e tutto, va benissimo. Però ieri, alla settima volta che mi si impallava il computer e al settimo messaggio che ricevevo si è impalato il computer, non capivo più se riuscivo a comunicare anche con qualcun altro. Sarebbe bellissimo ricevere dei feedback anche da altri e da altre. Scriveteci, mandateci dei bellissimi messaggi su Messenger, che oggi Zuckerberg ha detto che forse andrà in crash sia insieme a WhatsApp. Ma vi rendete conto che bello? Meraviglioso. Meraviglioso. Quarantena sta distruggendo il capitale. Meraviglioso. Più di quanto siamo riusciti a fare noi. Facendo finta che noi siamo degli anticapitalisti, ma forse non è nemmeno troppo vero. Detto questo, c'è chi prova da ore a costruire un bot che permette di comunicare con la redazione, con chi sta lì parlando ai microfoni male come me in questo momento, e non ce la fa. Ma Riccardo, ti vogliamo bene lo stesso e per questo non ti chiameremo mai. Ma c'è qualcun altro che in questo momento è in onda? Se smetti di ridere come un idiota, no, ma tranquillo, vado avanti io, posso parlare di qualsiasi cosa. Non so, Riccardo, basta. Mi fa ridere. Lo fai ridere. Con le tue ingiurie in Veneto. Cosa vuol dire che ha creato un bot? Non lo so, lascialo stare, è fatto così. Va bene, forse ci sarà un canale di comunicazione super super figo che ha creato Riccardo per parlare con noi. Ma stasera c'è qualcun altro in onda in questo momento? In questo momento salutiamo le compagne e compagni di Non è di meno, che sono in diretta esattamente sul nostro stesso dominio ma un indirizzo diverso. Trovate sul loro canale Telegram, hanno pubblicato il link per accedervi. Sicuramente troverete anche il link sulla pagina Facebook e Smagliature Digitali è la puntata di stasera. Sono in onda in questo momento insieme a noi, quindi le salutiamo. Bella storia. E, cosa ti volevo dire prima di chiamare la prossima persona? Non me lo ricordo, e quindi procederemo a chiamare qualcuno. Qualcuno dovresti deciderlo tu, tra le persone che tu hai detto che dovremmo chiamare. Aspetta, aspetta che sfoglio la Bibbia. Vai, sfoglia la Bibbia, bravo, bravo, sfoglia, sfoglia. Momenti di silenzio che uccidono l'audience. Mannaggia. Ma Lorenzo questo non lo sa, perché ha fatto soltanto una trasmissione radiofonica per 4 allora, anni. Allora, c'è un collettivo che ci sta molto molto simpatico, che dice di essere nato qua. Io ho visto proprio il feto, si può dire. Basta che non sembra un insulto. No, no, assolutamente, assolutamente. Ho visto proprio quasi il parto. È un collettivo che propone delle attività culturali legate prettamente al teatro, e alla socialità, all'antifascismo, all'antisessismo. E la persona... Ma come creiamo noi la suspense? Guarda, nessuno. È incredibile. La gente è agghiacciata a casa. Colgo l'occasione. Chi chiamiamo? Sto già chiamando. Colgo l'occasione per chiamare uno dei fondatori e salutare l'altro, che è Tommaso Russi. Quindi rimane Vlad Scolari. Madonna, Vlad Scolari in radio di nuovo. Se ci risponde al telefono. Ovviamente nessuno l'aveva avvisato che era... Magari sta facendo un video. Ancora. Probabilmente. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Ciao Vlad, sei in diretta, quindi di solo cose intelligenti come solo tu sai fare. Ah, ok, ok. Aspetta che mi metto la cravatta. No? Bravo. Bravo, e alza bene la voce. Esatto. Alzo bene la voce come fanno gli attori. Chi attori? Esatto. Qualcuno qui recita? Nessuno qui sta recitando. Avete chiamato il numero giusto, avete chiamato. Hola. Per una volta ne facciamo una giusta, quindi... Ascolta carissimo, ma mi pare di capire che la cosa dei video vi sta allegramente sfuggendo di mano, cioè tipo ne escono 16 al giorno, gente che non fa parte del dopolavoro stadera che fa cose pubblica, cioè è una cosa meravigliosa. Vlad, io sono commosso. Abbiamo tante cose da dire, si vede. Oh, finalmente. Ma stai mangiando? Sto mangiando il cracker alla faccia vostra. Cioè noi siamo in collegamento radio con te live, anche registrati, e tu mangi, beh, bravo, fai bene, ho fame alla madonna anch'io. Dai, raccontaci un po' di questi video. Cosa? Non è che mi avete avvisato che arrivavate. No, non lo facciamo mai, è il nostro stile, ci piace così. Ah, sì. Volete sorprendere? Facciamo le sorprese, sì. Irrompiamo, irrompiamo. Vlad, di un po' ai nostri amici e alle nostre amiche da casa, dove abiti, in che zona sei? Io sono in zona Stadera, vicino a Chiesa Rossa. Cioè, esattamente vicino a noi, sei vicinissimo. Meraviglioso, è un attore di quartiere praticamente. Vlad, dici la cosa più assurda che hai visto in sti giorni. La cosa più assurda? Sì, sarai uscito a prendere le sigarette almeno, spero. Sì, allora, la cosa più assurda sono io che traffico con i social media e tentare di fare teatro... In via webcam, quella è la cosa forse più assurda che ho visto. Quindi Zuckerberg ha detto che sta per crashare Facebook per colpa tua, chissà che quali tasti hai premuto, sta per saltare in aria Facebook in mano perché Vlad Scolari ha fatto queste cose. Sì, no, vabbè, voi giornalisti dovete sempre sensazionalizzare tutto. Giornalisti, Guglielmo ti ha dato del giornalista. Cosa? Basta. Tolgo il microfono da davanti e inizio con la serie di impropri. È la prima volta che finalmente Guglielmo si prende il nome di giornalista. Così. Eravamo, cioè, fate sempre così, siete faziosi. Se si era in 10 alla manifestazione, per voi erano 100, capito? Sempre così. Sì, ma fammelo un po' più di arcore, però. Dammelo un po' più di arcore, dai, dai. E niente, ci divertiamo in questo modo, almeno dico, per non condividere solo boiate, cioè anche boiate, perché ci sta di brutto. Però secondo me è proprio è strano. È qualcos'altro di strano? Vabbè, la gente del quartiere che non sapevi mai che suonasse, che si mette sul balcone a suonare. Certo. Malissimo. Abbiamo sentito certe storie, sì. Come? Ci hanno già raccontato di certe musiche che escono fuori dai balconi. Sì, ma tutta sta gente, perché non viene ai palchi aperti di Zam, mi chiedo io. Ma che bello che è uscita questa un po' questa anima genovese, no? Quindi è un genovese di Stadera. Ho appena lavorato su un personaggio genovese che uscirà nei prossimi giorni. E quindi c'ho dentro proprio la rabbia, quella dei caruggi, capito? Quella lì. Quella che ti sale, però. È meraviglioso, Vlad. Potremmo stare qui ad ascoltarti all'infinito, ma non possiamo farlo. E quindi non lo so, raccontaci qualcosa di video, maledizione, che dai. Allora, ogni settimana si decide un tema su cui chiunque può mandare un video contributo di una durata massima di 5 minuti più o meno, leggendo, interpretando, musicando, facendo un po' quello che cavolo gli pare sul tema proposto. e abbiamo però anche dei temi un po' speciali che assegniamo direttamente a delle realtà, associazioni, comunità a cui ci sentiamo affini, che conosciamo. Settimana scorsa erano i Brighton Beach Bonobos, che è una compagnia giovane di Novara, e questa settimana invece abbiamo dato il tema a Milano, a quel gran bel gruppo di gente che sono Tempi Diversi, Poetica Strada. Oh, sta gente qua torna sempre, là, eh? Mamma mia. È incredibile. I saliti ignoti proprio. Figo, figo. No. Viene una bella cosa. Poi pian pianino facciamo anche delle cose un pochino più artistiche, e quindi ci stiamo adoperando, e anche con i laboratori che avevamo avviato tentiamo di andare avanti con i ragazzi in questo modo, perché solo la lezione via telefono è un po' difficile. Invece realizzare qualche cosa, un contributo, che sia un video, è così da un po' di movimento. Ma, Vlad, serve per forza riprendersi con la webcam? In che senso? Nel senso che se io voglio fare la lettura mentre inquadro fuori dalla finestra. Va benissimo, ci mancherebbe. Ma sei un bel ragazzo, Lorenzo, inquadrati ogni tanto. No, perché volevo capire, alcuni video... Ma lui è un artista, lui deve creare, capito? Giù, hai ragione. Scusa. Posso finire di parlare, grazie. Senza no, che non mi puoi, parlate... quindi possiamo andare avanti. La cosa che volevo chiederti io, Vlad, anzi volevo dirti, è che il contributo di Luigi, quello che ha rifatto la scena della 25esima ora, sì... interpretata da Edward Norton, era veramente una bomba, proprio bello. Luigi Vittoria, ti sì. è piaciuto? Sì, sì. È piaciuto solo a te, però. Ah, la Madonna, addirittura. È successo? No, certo, sì, è stato molto bravo. La critica l'ha linciato. A me è piaciuto invece Dante. Dante è stato fatto tutto ieri sera. Soprattutto il montaggio. Sì, è stato fatto tutto ieri sera, perché ci siamo scordati che era il Dante D, e anche dall'università ci avevano chiesto se volevamo contribuire con qualcosa. Ce ne siamo completamente dimenticati fino a ieri sera, che abbiamo fatto direttivo via video chat. Ma non si dice così, Vlad, si dice che eravate pieni di impegni, dai! Si dice che eravate pieni di impegni, non si dice che ve ne siete dimenticati. Hai ragione, perché eravamo pieni di impegni, in quel momento ci stavamo proprio allargando, espandendo il nostro progetto, la nostra idea. Madonna, santa. Quindi... attore genovese, mangia e dice pure una marea di cagate, ma è bravissimo, sei bravissimo, sei fantastico. Sì, sono il re delle cagate, ragazzi. Sono anni che al palco aperto di ZAM faccio vedere questo, finalmente l'avete capito. Voi pensate il laboratorio di teatro così, no. Ma quando mai? Ma la cosa bella è che piace un casino soprattutto a quelli di ZAM, che è un posto che noi non conosciamo, ma deve essere molto bello, e ci possiamo andare. Okay. È un posto bellissimo, ti ci porterò poi. Grazie. Comunque, Vlad, ti volevo comunicare che abbiamo lanciato una sfida, una scommessa, se vuoi partecipare anche te. Non ci tagliamo la barba fino alla fine di tutta sta storia. No, io non posso, perché devo girare un video dove devo togliermi la barba. No, ma posso venire con te? Che io è l'unico periodo della mia vita che mi sto tagliando la barba, e quindi mi devono costringere a non tagliarmi la barba. Come fai a farti un video mentre ti fai la barba? è così, devi fare le cose con quell'uomo là, ti capisco anche a te. Che... Guglielmo? Lo so. Ma io non ho capito la battuta, ma comunque era tristissima. Va bene, carissimi, siamo riusciti ad aprire 18 discorsi chiudendone tipo 3, ma a questo punto è tipo il momento di salutarci. Però hai tempo, cioè hai la cosa bellissima di queste telefonate qua, che lasciamo un regalo, nel senso che puoi sceglierti una canzone qualsiasi. Qualsiasi proprio. Hai Pronto? Tempo di sceglierla, intanto possiamo chiacchierare. Non così qualsiasi, ecco. Ti saluti tanto il tuo papà. Ma non ho capito, devo scegliere una canzone, una musica? Sì, una che ti piace. Ma metti il buon Marcello Gori, che è il nostro DJ del cuore proprio. Marcello Gori, DJ del cuore. Perché c'è una questa traccia, definizione? C'è una traccia metti Disperato Entusiasmo, che abbiamo fatto il video, metti... Disperato Entusiasmo? Adesso cerchiamo Disperato Entusiasmo. Ormai l'hai detto, basta. Contiamo che... Neanche a farlo apposta, il primo video che mi si apre è hashtag dopo lavorare non stanca, Disperato Entusiasmo, Marcello Gori. Meraviglioso. Poi praticamente tu adesso mi mandi anche il link. Ah no, vabbè, ma vi trovo sulla radio. Ma mandatemi il link della radio, che così lo passo anche a Marcello, che vi ascolta. E quindi noi siamo la prima radio in cui che praticamente siamo capaci di fare radio mentre mettiamo la musica, mentre passiamo a chi ci ascolta il link per ascoltarci. Cioè, siamo troppo forti. Hai visto? Ma veramente. Ma è il nuovo millennio proprio, siamo entrati nel nuovo millennio. Siamo veramente troppo avanti, ma a questo punto, dato che sei genovese, una prova per te. Come faccio, da che cosa è composta? Quali sono gli ingredienti della vera focaccia di Recco? Allora, ci sono delle cose, Guglielmo, che voi del nord non capite. Quindi, non si può fare, non potete fare la focaccia a Milano, perché non c'avete l'acqua buona che abbiamo noi, non c'avete il formaggio buono che abbiamo noi, quindi no, vi dovete prendere il treno quando si potrà e andare giù a Recco a mangiarvela, capito? Bellissimo, eri una fusione tra il Gabibbo e De André. Meraviglioso, meraviglioso, veramente, ci mancava il Balandi e poi non lo so, sotto una coperta scura. Se qualcuno sarà morto per questa mia imitazione di De André, probabilmente, fa bene, perché è stato veramente pietoso. Siamo stati zitti per lasciare correre Gulli. Grazie, è bello essere il tuo... cioè, se tratti così anche gli attori che recitano con te, stanno bene. Perfetto, a questo punto pare essere possibile ascoltare la tua canzone e quindi non smettiamo di dire idiozie e ti facciamo ascoltare Disperato Entusiasmo. Grazie Vlad, buoni video, ci sentiamo presto. Mandami il link della radio, così lo sì, mando te lo mandiamo. Dai, ciao, baci. C'è la pagina aperta. Stiamo toccando dei vertici nel riuscire a occupare il tempo dicendo cose inutili, che siamo dei campioni mondiali, veramente. Anni e anni di università. Madonna. Università della radio. Figurarsi tutto quello che avevo in mente e chissà come farò andare avanti e sopravvivere, ma più ci penso più mi viene da ridere, perché a profondo del mio cuore ho un disperato entusiasmo che mi rende folle come Erasmo, un disperato entusiasmo che mi spinge oltre i limiti della realtà. A metà strada c'è la virtù, ma è di una noia deprimente. Agli estremi mi diverto di più, incontro pure tanta bella gente che come me potrà mai godersi la pensione e allora si dedica ad una sana e consapevole autodistruzione. È un disperato entusiasmo che li rende folli come Erasmo, un disperato entusiasmo che li spinge oltre i limiti. Che li rende folli come Erasmo, un disperato entusiasmo che li spinge oltre i limiti della realtà. Disperato entusiasmo, disperato entusiasmo, disperato entusiasmo, disperato entusiasmo, disperato entusiasmo, disperato entusiasmo, disperato entusiasmo, disperato entusiasmo. E torniamo live, almeno torniamo a parlarvi invece di farvi ascoltare dell'ottima musica. Abbiamo avuto il nostro fantastico aiuto in regia Iaffi, che ci ha portato un disco, cioè un disco se magari, un cavo tutto nuovo per far funzionare meglio la nostra radio. Adesso andiamo a inserire un ospite che non avevamo preventivato, ma noi siamo fatti un po' così, siamo sì, solo sregolatezza senza genio. Perché totalmente. Io personalmente sono un idiota, Lorenzo è una persona abbastanza intelligente invece, ma mi spiace per lui. Si è accoppiato io, a me in questo momento. Io mi chiamo Paolo. Mi chiami Paolo, bravissimo. Andiamo a chiamare, utilizzando una nota app di messaggistica, un amico che si è trasferito in Inghilterra tempo fa. Se riusciamo a trovare il suo numero, perché WhatsApp talvolta, ops, ho detto il nome, questa maledetta applicazione ogni tanto quando salvi il nuovo numero poi non lo registra, quindi aspettare un attimo di chiudere e riaprirla. Questa persona era una persona famosa di più anni fa, perché faceva un sacco di foto, ma non viene dall'Abruzzo, quindi non è lui. Se riusciamo a trovarlo, no, non me lo trova, porca miseria. Lorenzo, trova un escamotage per farmi guadagnare del tempo mentre io bestemmio in silenzio. Fondamentalmente, a Felacuti poi, cosa hanno fatto? Non è ripartito da Felacuti, ma quest'uomo è un genio. Prima abbiamo avuto il piacere di ascoltare Zombie, una canzone molto bella e a parer mio anche molto narrativa, nel senso che tutte le tracce di Fela sono estremamente lunghe. Ci sono delle, nel documentario lo diceva proprio, c'erano i musicisti che gli dicevano: ma prima quando è che smette questo, quanto durano queste? Infatti poi c'è tutta la parte iniziale che viene caricata, viene ripresa poi da sua voce, eccetera eccetera. Zombie anche lei ha una narrazione, andatevela ad ascoltare, l'abbiamo mandata in diretta prima. Sono andati a prenderla a casa fondamentalmente e hanno spaccato tutto e gli hanno gettato la madre dal terzo piano. Cioè, questa cosa è assurda. Poi la madre, che già era la prima donna femminista africana, c'è stato proprio questo attaccamento del figlio alla figura della madre, e poi non si spiega moltissimo il suo rapporto con le donne, un po' complicato, anche il documentario lo spiega molto bene e ci rimani un attimo quando dici: ah, beh, ammazzo, faceva pure queste cose, ok. Poi ti crei un immaginario davanti a certi miti, e poi quando ti raccontano la loro vita, poi ovviamente con dei principi molto saldi e anche un senso di, come posso dire, di comunità. Infatti, da ricordare anche l'episodio del suo funerale, c'è stato una marasma di gente che si è presentata al suo funerale, hanno invaso la città, eccetera. E questo era il racconto su Zombie, che è stata una canzone che ha scosso molto quella che è le dinamiche di potere che ci possono essere tra un artista, musicista e tutto un apparato di repressione che si stava ovviamente scagliando contro tutta quella che era la sua famiglia, la sua comunità di parenti, amici e amiche. Allora, per dirvi il tipo di soggetto che stiamo andando a chiamare, mi ha dato il numero sbagliato. No, allora io bella che con una io vorrei esortare, fa, certo che non funziona il numero, te l'ho dato sbagliato. Io vorrei esortare gli ascoltatori e le ascoltatrici da casa che sto davvero impazzendo con i miei compagni e le mie compagne che non sanno usare la tecnologia. L'altro giorno. Vuoi da me? Lui mi ha dato il numero sbagliato. Questo è il numero. Vabbè, comunque vetro. Lui è un fino umorista, un fino umorologo, un fino umorale. Andrea Parapini ai microfoni di Radio ZM. Sta squillando. Ed ha risposto. Andrea, sei con noi? L'abbiamo alzato il volume? Sì. Forse sì. Non ci si sente, ma va bene lo stesso, così l'hai messo in muto. Vengono premute tante cose nel nostro mixer, ma speriamo che funzioni, ne funzioni almeno una. Niente, torniamo indietro un attimo col cavo. Aspettate che io tranquillizzo Andrea. Andrea, un momento che abbiamo dei problemi tecnici. Se vuoi però puoi parlare forte forte, ti sentono lo stesso, saluta. Ok, siamo tornati. Non capisco. Eccoti qua, ciao Andrea. Bella Gulli. Perfetto, noi ti sentiamo. Tu ci senti, sei in radio live. Andrea Parapini, un uomo scappato in Inghilterra per motivi loschi. Forse perché qualcuno lo cercava per ucciderlo, date le sue battute troppo belle. Come stai? Possibile, molto. Ma io bene. Voi come state? Ma senti, dai, che tanto tutti quanti stanno pensando. Ma quindi ti sei abituato a vedere morire i tuoi cari, visto quello che dice Boris Johnson? Ma che lo dico a lui, non mi stupisce più di tanto, visto che tutti lo odiano. Io preferirei evitare, però con lui non si sa mai. Cioè, penso che tutta la famiglia di Boris Johnson vuole che i propri cari muoiano. Però. Quindi in realtà era tipo una roba biografica sua, cioè lui ha fatto questa cosa in tutta l'Inghilterra perché voleva che morisse la cognata, tipo la suocera, cose così. Ma sì, ma cioè, non so neanche quanta famiglia ci abbia alla fine, poverino. Tipo, suo padre, questa non è una battuta, suo padre questa settimana ha detto: io sto facendo il passaporto francese. Ma veramente? No, ci credo. Il padre di Boris, questo, mi piacerebbe che fosse una battuta, ma è vero, per cui quando i tuoi cari pensano questo di te, magari tu speri che muoiano, è ovvio, e viceversa. Cioè, comunque è meraviglioso che tu sei il primo ministro inglese e tuo padre vuole fare il passaporto francese, qualcosa di, cioè, che sfiora, cioè, il politico e il personale si mischiano. Cioè, non so, cioè, ancora dici tedesco, irlandese, no? Francese. Ah, meraviglioso. Va bene, Andrea, allora, noi ti abbiamo chiamato in questa trasmissione assolutamente poco seria perché sappiamo che tu avevi la pessima abitudine di raggelare l'ambiente con delle battute orribili. Cosa è successo? Ho sentito un beep. Ci sei ancora, Andrea? Sì? Ci sono, sì. Non so cosa è successo. Penso, non so, ho sentito un rumore, ma ero io nella mia fantasia che ipotizzavo, evidentemente. Con le allucinazioni. Tu mi hai scritto delle bellissime battute che, se vuoi, ci puoi recitare nella maniera più penosa che tu conosci. Se no, puoi anche andare a ruota libera. Cioè, fai quello che vuoi. No, io direi, faccio finta che mi vengano spontanee infilandole. Bravo. Madonna. Bravo, bravo. Allora io farò una cosa che è tipo, faccio finta di, cioè le rileggo, così vedo quello che è uscito, come erano scritte. No, vedi, così non funziona però. Perché lui si è sconnesso. Come mai? Eccoci qua, Andrea. Eccoci qua, Andrea. Non ci sentiamo più. Non dagli ci sentiamo un attimo. Più. Andrea, ci senti? Riconnessione. Mi sa che c'era un problema di connessione. Ma possiamo spiegare perché? Perché c'è un problema di connessione? Perché quando le nostre compagne hanno fatto la trasmissione chiamando compagni a Londra, in Germania, noi ovviamente è venuta l'invidia, abbiamo detto ma anche noi ce l'abbiamo il super ospite dall'Inghilterra e abbiamo chiamato Andrea, che mi sta chiamando. Ci tiene troppo. Vedi. Pronti? Molto, eccomi. Adesso, va bene con la Brexit, però non così in fretta. Lo so, no, ma c'è un problema di connessione, perché ovviamente la mia ragazza in soggiorno sta facendo Pilates online. E quindi mi sta ciucciando tutto il wifi. Cosa devo dirti? Sei tu che te hai scelto la convivenza, caro mio. Era così. Lo so, infatti, preferirei il wifi, guarda. Sai, no, ma tranquillo che abbiamo gli stessi identici problemi pure qua. Anzi, forse peggio. Non c'è Guglielmo che fa Pilates di là. Esatto. Dimmi che è tutto vestito di licra, se no non... Non ho capito. Dimmi che è tutto... Dimmi che Guglielmo che fa Pilates è tutto vestito di licra aderente. Sì, certo, certo. Vede ogni solco. Guarda. Almeno 4 ore al giorno. Ogni solco. E ce ne sono di solchi. Mamma, quante ce ne sono. Oh mio solchi. Dio, che caldo qua dentro improvvisamente. Ragazzi, Andrea è uno così. Quando spegniamo lo vedi, la stufa. Quando lo vedi, lo conquisti. Ma Andrea, se vuoi ti puoi brevemente presentare al mio compagno e amico Lorenzo, che non ti conosce. Ciao Andrea, piacere e Lorenzo. E puoi raccontarci che cos'era Milano in Movimento prima che diventasse Milano in Movimento. È sempre stata Milano in Movimento. Come scusa? Milano in Movimento è sempre stata Milano in Movimento. Sì, lo so, ma adesso hanno i likes, militato... hanno le big view, fanno gli articoloni. Una volta era giornalismo di strada. Sicuramente non quando c'ero io. Io però ho cominciato a militare ancora prima di me. La mia gioventù l'ho fatta insieme a altre due persone, penso, in Milano Movida. Addirittura. Madonna, aspetta, ma era già caduto l'asteroide che ha sterminato i dinosauri o non ancora? Sì, penso che fosse più o meno tra quello e il muro di Berlino, e poi è arrivato tutto il resto. Giusto uno spaccato. Più che il muro di Berlino che è caduto, l'evento topico è quando hanno tirato su le cancellate del MOM, penso. Quelli erano i tempi. Cioè, c'è gente oggi che manco sa che all'epoca si andava al MOM a farsi la birra, probabilmente tra tutti quelli che ci ascoltano il 10% sa cos'era il MOM, per cui... Questo vi dà un'idea. Ma guarda, probabilmente ad ascoltare ci siamo io, te, Lorenzo qui presente e mia madre. Quindi in realtà mia mamma lo sapeva. Anche la mia! Ma non usciva a bersi le birre, quindi vabbè, dai, va bene così uguale. Ciao mamma. Ciao mamma. Io non la saluto, sono un ragazzaccio di strada. E quindi tu facevi un sacco di foto ai tempi, mi ricordo. Sì, ne facevo un sacco, ne tenevo le due o tre buone per la legge dei grandi numeri e sono ancora da qualche parte penso, e ogni tanto vedo che quando fate i flyer o cose così mettete ancora la mia foto. Non mi avete mai dato una lira, ovviamente. Ovviamente, ma non abbiamo percepito nemmeno noi, dai, siamo poveri tutti insieme. Con tutti i cash assieme. Che fate, a me neanche una lira, ma va bene. Va bene, esatto. Poi tu che hai le sterline ancora, cosa vuoi? Che non siete nemmeno più nell'Unione Europea, sì, dai, esatto. Su. Io sono un genio della finanza, sono venuto qua... Pensando, cazzo, sterlina, valuta forte, sono arrivato a novembre del 2015, 3 mesi dopo Brexit, per cui mamma mia. Il mio simpaticissimo stipendio in sterline, non dimezzato, ma tagliato di un terzo rispetto all'euro, per cui vabbè. Ma tu adesso che c'è il coronavirus lì a Londra, tu stai a Londra? Io sono a Londra, sì, noi stiamo lavorando da casa da venerdì. Scorso, cioè da 2 venerdì fa, è una settimana, è un delirio, io sto diventando scemo. Hanno fatto il lockdown, penso da questo venerdì, da questo weekend, ma hanno chiuso i pub prima degli uffici, per cui dopo è ovvio che facciano il lockdown, perché una volta che chiuso i pub che cazzo vuoi fare? Cioè, erano tutti disperati qua. Stanno incominciando adesso a fare quelle leggine un po' non tanto chiare, tipo da noi, tipo si può andare al parco in 2, in 3, sì, ma senza cane, puoi uscire una volta al giorno okay. A fare sport o la spesa. E come fanno a contartele? E il problema è che se poi vai a fare jogging al mattino ti viene fame, che cazzo fai? No, ma come fanno a contarle? Sono inglesi, si autoregolano. Lo sai come sono. Veramente? Cioè esiste ancora questo mito dell'inglese che segue le leggi? Ci credo. Bah, quanto pare. Ma in realtà, secondo me, un certo vantaggio qua ce l'hanno sul social distancing, perché è un popolo che fa fatica a guardarsi in faccia in metropolitana, per cui a stare un metro di distanza non gli sembra vero che sia per che sia diventato legge. Dicono, oh, finalmente un po' di civiltà messa per legge, insomma. Soprattutto con noi immigrati, un metro di distanza, ma anche facciamo uno e mezzo, dai, stiamo sicuri. Quindi puoi andare al parco una sola volta per fare il tuo allenamento, se no lo fai in casa. Com'è il tuo allenamento in casa, Andrea? E qui c'è, dovrebbe aprire una scritta enorme da qualche parte, perché siamo in radio, quindi le scritte non ci possono essere, tipo assist per la battuta che mi hai passato. Ma intanto il mio allenamento c'è molto sollevamento di gomito, ma a parte quello c'è un problema di fondo con l'allenamento in casa, che è che io lo trovo un po' classista. Cioè tu vedi questi workout online, bellissimi, gente tutti... Allora, ce ne sono in realtà di due tipi. Sono quelli per i vecchi americani obesi oppure quelli nazisti, tipo. Cioè, ho visto un paio di video di questi tipi qua, magrissimi, tutti vestiti Reebok, CrossFit, tatuati, cappellini, tutto. Ho visto due video così, il video dopo, nella playlist, era Mussolini a Piazzale Venezia. Cioè, esatto. Era quel tipo di workout. Dal CrossFit a Piazzale, al balcone di Piazzale Venezia è un attimo proprio ormai. Beh, in realtà sì. E poi sta cosa qua di workout è un po' classista, perché questi dicono fai quattro passi avanti belli lunghi. Che cazzo c'è un salotto così grande? Io faccio quattro passi avanti e finisco dal vicino. Sono d'accordo, sono d'accordo. Queste cose non ci pensa nessuno. Dal fitness alla box in un secondo. Capito? Cioè, è sempre un workout, ma è un'altra cosa. Esatto, esatto, esatto. Rischi qualche dente. Vabbè, dai, gli inglesi sono anche persone tranquille, no? Non è che se la prendono. Ma sì, tanto poi andare dal dentista di questi giorni è una cazzata, no? Esatto, apro la bocca bene, respiri e via, cioè, e via quei contagi. La più grande news di oggi dell'Inghilterra, che questa, la battuta è veramente scontata, ma ha preso il coronavirus il principe Carlo. Ma va, non è vero, davvero? Io, notizia vera, ma la battuta più scontata è, cazzo, cosa non si fa poi di prendere una corona? Questo sono 50 anni che aspetta. Ah, no! È capito adesso, sei un genio! Sei un genio! E ovviamente, invece sua mamma sta da Dio, perché figurati. Cosa, scusate, non ho sentito? Sua madre sta da Dio. Ovviamente sua madre sta da Dio, beh, certo, certo. Figuriamoci. D'altronde, c'è qui in radio anche Yaffi che potrebbe raccontare un fantastico aneddoto di oggi, che è andato a fare la spesa, c'era una vecchina di 89 anni, ci teneva a farli pesare, che non erano 90, che ovviamente è uscita senza mascherine, senza guanti, bella, ruspante, tanto chi l'ammazza ormai? È arrivata quasi al secolo, è Highlander. Va bene, va bene, va bene. Ma senti, ma secondo me a questo punto ti faccio un altro assist, c'è qualcosa riguardo alla politica, qualcosa riguardo alla politica nostra, cioè a quanto è stato capace il PD di essere, cioè di fare dei passi in avanti o indietro o di lato. No, su giù, nel senso che spesso prima nel workout parlavo dei quattro passi avanti, ogni tanto ti fanno fai quattro passi avanti, poi tipo fai un passo destra e mezzo sinistra, io a quel punto, cazzo, questo è quello che fa il PD, uno destra, mezzo, no, spero, no, fermi, il PD non fa neanche il mezzo sinistra. Madonna, e qui si va sulla satira che quella che c'era una volta in Italia. Satira violenta. Cattivissimo, mi sei diventato british anche nella satira, sei proprio così, con quegli humor sottile. Ma guarda che se british è un modo di dire, cagare, questo lo avevo anche prima di venire a Londra, eh. Ah, ok. Ma tra l'altro, scusami, non è british. Ma un ragazzo simpatico come te, molto all'italiana, che si viene precipitato in mezzo alla nebbia della... Non è la Senna, perché la Senna a Parigi del Tamigi, ecco. Cioè, com'è stato l'incontro con chi faceva l'umorista o chi faceva il simpaticone lì? Beh, intanto parlando di nebbia, io venivo da Venezia, per cui parliamone seriamente. Effettivamente. Qui... Il problema è che purtroppo le mie battute sono sceme in italiano e sono esattamente sceme uguali in inglese e la gente se ne è accorta subito. Non so come hanno fatto, sono furbissimi. Hanno capito subito che è un coglione. Ma no, ma va, incredibile. Cioè, questa cosa chi l'avrebbe mai potuto dire? Fantastico, fantastico. Ultima battuta, dico perché solo la realtà fa ridere tanto quanto la fantasia più spinta. Che lavoro fai tu, Andrea? Che? Che lavoro fai tu? Io mi occupo di PPC per hostelworld.com. Cioè, in poche parole? In poche parole, quando tu cerchi ostelli a Londra su Google, il primo risultato sono io. Fantastico. Se non sono io c'è qualcosa che non va. Quindi praticamente nel mondo del coronavirus, tutti bloccati in casa, frontiere chiuse, tu lavori per un'agenzia di viaggi. Beh, grazie Andrea, ti possiamo salutare. Andrea, no, ma sai che... Grossa, diciamo che guardo un computer tutto il giorno piangendo disperato, guardando i numeri. Io l'avevo capito. Andrea, hai il bellissimo regalo di sceglierti una canzone che verrà trasmessa appena ti salutiamo. Beh, ce n'è una molto banale che è tra il clima che c'è qua e il fatto che sono da Londra. London Calling, me la passate o no? Dai, direi assolutamente sì. Dai. La 3G, gente a Londra, tutto quanto. Tanto io continuo a pensare questa cosa. Praticamente noi ci appropriamo indebitamente dei... Cosa è successo? Perché mi indichi? Ah, ok. Sì, effettivamente. Potrebbe darsi che ce l'abbiamo già nella nostra libreria senza andarlo a scaltramente sottrarre alle librerie online. London Calling. Che tra l'altro fa 30 anni quest'anno. Non c'è. Ma è incredibile. Quindi niente, ci aiuti a fare questa cosa che stavo quindi pensando prima. Cioè che praticamente noi facendo così ci stiamo costruendo una fantastica libreria piena di tutte le prime scelte delle persone a cui telefoniamo. Ottimo. Ovviamente, una cosa meravigliosa. Ovviamente ti mandiamo il link per ascoltare, perché nel momento in cui mettiamo giù il telefono non è che, cioè, ancora non entriamo nella ci mancherebbe testa. Altro. Ancora non riusciamo a entrare nelle teste. Praticamente però... siamo così bravi che noi, cioè, facciamo radio, ti chiamiamo al telefono per intervistarti, ma poi allo stesso tempo ti mandiamo anche il link per ascoltarci dopo. Quindi è così che noi conquistiamo dei nuovi ascoltatori. E così addocchiate gli ascoltatori. Esatto, esatto. Li obblighiamo chiamandoli al telefono. Capito? Siamo troppo nel senso che ascolto solo un'altra persona e poi appena mi connetto io siamo in due. Esatto, esatto. Tendenzialmente in questo momento siamo io e te Lorenzo, le mamme ci hanno già salutato perché avevano da fare di meglio che ascoltare i loro figli dire idiozie. Ma non lo so, vuoi lasciarci con un monito prima che l'Inghilterra si stacchi completamente dal continente e navighi verso il mondo del nord? Io ho una cosa più interessante, mi raccontate come vi siete conosciuti? Vai, te lo ricordi te? Mi raccontate, scusa, non l'ho sentito bene. Come vi siete conosciuti voi due? Allora, io non lo so, io so che, vabbè, sicuramente tramite Mimo o qualcosa del genere, sto pensando quale può essere la prima volta che ho visto Gulli, non mi viene in mente, cazzo. Io mi ricordo di Andrea che si beveva e faceva un sacco di spritz. Sì, forse sai, mi viene il concerto per Nick in 24 maggio. Ah, si dice che avevo già la gamba rotta, peraltro. Possibile. Sì, sì, ma è una sorta... quella per me è stata praticamente la volta che ho conosciuto più o meno tutti, per cui sto immaginando quella. Beh, momento. La sera che mi sono fatto una canna con i Pancras e Casino Royale. Ciao. Ma ciao, proprio, ciao. La sera che è finita la mia adolescenza. Avevo tipo 25 anni. Eri giovane, rampante e bellissimo. Va bene, ci siamo quasi, resisti ancora un secondo con noi dicendo un sacco di cagate. No, non è vero. London Calling dei The Clash, ci siamo. Cosa c'è? Cosa mi stai suggerendo di alzare il volume? Noi ringraziamo Andrea, ti richiameremo perché siamo una malattia dura a morire come il coronavirus. Ciao carissimo, stammi bene. Ciao Andrea, ci sentiamo prestissimo. Ciao ragazzi, buona serata. Ciao. Allora, prima di lasciarvi nel silenzio più totale, mi suggeriscono di premere play. Pensavo di essere più scaltro, onestamente, nella regia, ma invece non lo sono. Buon ascolto. Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania is bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. The imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't want to shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see, we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice is coming. The sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going thick, a nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. Attenzione, ci siamo fatti quasi cogliere preparati, ma mancava solo qualche centesimo alla fine del brano. Io qua riabilito, così magari se non ci stanchiamo di parlare parte un po' la musica. Voi non avete capito cosa succede a microfoni spenti. Qua stacchiamo cavi, attacchiamo cavi, cambiamo computer, programmiamo puntate a venire. Ma è veramente tutto meraviglioso. A questo punto ci troviamo nell'inconvenevole situazione di dover chiamare una persona brutta, come ci capita no, spesso. No, ancora, no. Lo so, è lui, è ma lui. Scusa, ma tanto dici sempre le solite tre minchiate. Vabbè, però non è detto che se io uso parolacce in radio devi usarle anche tu. Cioè, sicuro senso, non ci sta neanche ascoltando. Sicuro non ci risponde, perché è una brutta persona. Abita a Corsico, ma non glielo dite, perché sennò si offende. E adesso vediamo cosa ci dice Giulio. Forse inizia a mancarmi, forse. Però. Giulio cos'era? Era tipo il nostro inviato? Ah sì, dalla Corsico, dal terzo Reich di Corsico. Esatto. Sì, lui era la nostra cellula. Ora ti avvede il tuo numero, basta. Il terzo Reich di Corsico. Se potresti star per morire. Non risponde perché è una persona orrenda, starà facendo una di quelle sue cose, tipo fissare il nulla, cercando polemiche da fare. Ci ha lasciato la segreteria. Ragazzi, la segreteria. Sai che ti ha salvato come Gulli Radio ZM? Non allora, più come Gulli come non rispondere. Va bene, allora noi abbiamo sempre pronte persone da chiamare. Se non ci risponde nemmeno questa volta, è veramente una brutta persona. Sentiamo cosa ci dice la Grattosoglio. Attenzione, Sveva, attenzione. Ti stiamo chiamando al telefono. Se non rispondi, fai schifo tantissimo. Sì, che risponde. Dai, devi rispondere per forza. Non risponde. Non risponde, ragazzi, ma cioè, siete veramente delle brutte persone. Dici che ci stiamo illudendo di essere simpatici? Ci stiamo illudendo, ma forse sì. Secondo me perché facciamo il programma durante l'ora di cena. Niente, ormai potremmo stringere amicizia con... Ma no, dici che sono le 20. Potremmo stringere amicizia con la tipa della segreteria. Beh, lei sicuramente risponde. Va bene, dai, allora dobbiamo per forza fare questa cosa. Mi spiace, ma quando tutto va male, via, si passa allo schema caos. Oh mio Dio. È un militante incredibile. È bravissimo, molti e molte dicono anche bellissimo. Tendenzialmente lui risponde al telefono perché molto spesso lo utilizza. Io per primo. Loschi fini. Hey. Oh, bella Maccio, com'è? Ciao Maccio, come stai? Tutto bene. Fantastico, sei live in radio, quindi non puoi insultarci più di troppo. Stavo già per insultarvi. Mannaggia. No, no, fermati. Come stai Maccio, a posto? Sto abbastanza bene, grazie, voi? Molto bene. Ma scusami, stavi facendo sport perché non sentiamo il fiatone? No, stavo facendo sport fino a che non abbiamo avuto un problema tecnico, adesso siamo così. In cazzeggio. Va bene. Così. Ma ci vuoi raccontare come sono andate le consegne che hai fatto oggi? Sono al piano di sotto. Ah, ma va, ma pensa, che non avrebbe mai detto. Ma ascolta, ma ci vuoi raccontare come sono andate le due consegne di oggi? Ma oggi ne abbiamo fatte 6, non 2. La miseria. Sì, 6. Come prima cosa. E sono andate abbastanza bene, ci sono un sacco di vecchine senza nulla, e quindi sono molto felice di vederci, di avere questo servizio. Mangiano come delle balene perché ordinano un sacco di cose e cercano disperatamente tutto il lievito che però noi non cioè che è introvabile, quindi se qualcuno vuole inventarsi un bel business, produca del lievito madre e lo distribuisca alla popolazione di Ficco. Ah, ma allora questa leggenda che non c'è più lievito in Italia non era una leggenda? Tutti i panettieri in questo momento. Tutti i panettieri e tutti i supermercati hanno finito il lievito. Ma è incredibile. Che poi è un po' come l'alcol e le mascherine, cioè il sistema industriale capitalista non riesce a fornire una soluzione a questa penuria di beni. Avevano raccontato che era la cosa migliore che riusciva a fare, invece no. No, siccome non c'è la DDR, tendenzialmente non c'è neanche il lievito. Mannaggia. Va bene, Macio, grazie mille, sei stato fantastico. Grazie, Macio. Figurati. Dai, ci hanno raccontato che sabato fai tipo dei collegamenti con la Palestina. Non ho capito. Qualcuno ha detto, ha fischiato questa informazione alle nostre orecchie, sì, che sabato fate una conduzione, tu e Giulia, e di collegamenti dalla Palestina. Bene. Bene. Beh, è una buona idea. No, perfetto, era se la tua. Se avremo il tempo di farlo, saremo più che felici di farlo. Fantastico. Va bene, Macio, allora a questo punto, come tutti gli altri, anche tu puoi sceglierti un brano da mandare in radio in questo momento. Un brano qualunque? Qualsiasi. Sì, il tuo preferito del momento. Che difficoltà. L'animale di Franco Battiato. L'animale di Battiato, mi sembra buttato. L'animale Battiato. A questo punto Lorenzo ti intratterrà qualche secondo mentre io cerco di raggiungere questo fantastico brano. Macio, hai voglia di raccontare alle ascoltatrici, gli ascoltatori da casa, che tipo di lavori stiamo facendo qua, come stiamo migliorando un po' il posto, eccetera? Ma stiamo facendo diversi lavori di manutenzione varie, tra cui rimbiancare tutto il rimbiancabile, sistemare i vari impianti elettrici che a volte non sono molto sicuri. Stiamo cercando di riordinare il più possibile lo spazio, anche se ad ora sembra un cantiere che è esploso, neanche un cantiere normale, e basta. Quindi stiamo cercando di riammodernare ciò che è possibile fare, ovviamente con gli strumenti che abbiamo, perché essendo tutto chiuso e non potendo noi uscire se non per cose eticamente importanti, abbiamo la possibilità di fare solo questo. Quindi insomma, così portiamo avanti le nostre giornate con grande frenesia e entusiasmo. Fantastico. Però c'è un appuntamento serale che tutti quanti ci stanno invidiando in questo momento, e cioè il tuo appuntamento con una serie, una serie di documentari, sì, fantastici. Ce ne vuoi raccontare, esatto, un pochino? Allora, stiamo guardando dei documentari sul pianeta Terra, e ci abbiamo quasi concluso la serie, siamo quasi tutti diventati dei biologi marini e di svariate altre cose. Perfetto. Noi abbiamo siamo riusciti a occupare... Cosa? Compreso Andy, che è un biologo marino ormai... Affermato. Vero, ce l'ha detto. Affermato e riconosciuto. Va bene, l'animale Franco Battiato è pronta. Ti ringraziamo per questa fantastica telefonata dal piano di sotto. Ciao, Macio. Ci vediamo a cena. Ci vediamo a cena. Ciao. Ciao. Beh, telefonata meravigliosa. Meravigliosa. Fantastica. Incredibile. Ciao, Macio. Ciao. Potendo poi rinascere, cambierei molte cose. Un po' di leggerezza e di stupidità. Fingere, tu riesci a fingere, quando ti trovi accanto a me, mi dai sempre ragione. E avrei voglia di dirti che è meglio se sto solo, ma l'animale che mi porto dentro non mi fa vivere felice mai. Si prende tutto, anche il caffè, mi rende schiavo delle mie passioni e non si arrende mai e non sa attendere. E l'animale che mi porto dentro vuole te. dentro me, segni di fuoco e l'acqua che li spegne, se vuoi farli bruciare, tu lasciali nell'aria oppure sulla terra, ma l'animale che mi porto dentro non mi fa vivere felice mai, si prende tutto, anche il caffè, mi rende schiavo delle mie passioni, e non si arrende mai, e non sa attendere, e l'animale che mi porto dentro vuole te. Ci siamo. C'è chi dice che la nostra più grande qualità è la persistenza, cioè la capacità di rompere le scatole fino a ottenere ciò che vogliamo. E quindi adesso richiamiamo Giulio e vediamo proprio che scusa si può inventare per non rispondere adesso. Dai, sentiamo dal Terzo Reich di Corsico, Giulio, cosa riesci a dirci? Giulio, rispondi. Devi proprio vedere adesso cosa fa, guarda. Giulio, rispondi. Sta suonando, suona in maniera evidente. Dai, provaci a non rispondere. Schifoso essere maledetto. Dai, ma veramente? Davvero? Ce la lascia appesi così? Oh. Buonasera, Giulio! Carissimo amico Giulio, come stai? La radio! Buongiorno! Mi sto asciugando. Ma che... In che se... Prima. Giulio, sono le 8. Andiamoci piano. Posso fare le docce alle 8. No, certo, assolutamente. È la prima della quarantena. Non lo sapevo. Lore, effettivamente alle 8 è un orario un po' strano. Avevamo paura di disturbarti la cena. No, effettivamente io adesso faccio la doccia, poi mangio. E chiamate un po' orari così, che vi devo dire. Guarda, mi sembra quasi che assomigli al tuo amico Riccardo Badagliacca, che non lo sa mica che noi andiamo in trasmissione qui, così, cioè a questo orario. Lo sapevi già, ti abbiamo minacciato più e più volte con oggetti contundenti o meno in questi giorni che ti avremmo chiamato, potevi anche ricordartelo. Ecco. Sicuramente smetterò di fare la doccia alle 8 e a cenare verso quest'ora. Bravo. Grazie. In generale, Giulio, Non fare più la doccia e non mangiare più, che è una soluzione che va bene per tutti i mali. E tenere il telefono sempre con te. Secondo me la soluzione potrebbe essere chiamare Cibo. Dici? Sì. Guarda, mi mancano tantissimo, vorrei parlare con loro, vorrei che mi chiamassero verso le 8. Comunque questa cosa di chiamare Cigo potrebbe essere una bella idea, dopo lo chiamiamo, è una bella idea chiamare Cigo. Diventando quasi il nostro stacchetto pubblicitario. Chiamate Cigo, dai. Chiamiamo Cigo perché chiamiamo te? Dai. No, assolutamente no. Andiamo avanti a chiedere a te come stai, carissimo, e come va nel Terzo Reich di Corsico. La polizia gira ancora con le mitragliatrici da campo a urlare alla popolazione di stare in casa? No, la cosa un po' strana che è successa è che hanno tolto la luce di Cavour, quindi tipo alle... 10 sembra veramente Resident Evil, cioè buio, tutto buio, ed è anche un po' bello, devo dire la verità. Ma a che ora è saltata la luce, Giulio? Eh? A che ora è saltata la luce? Ma sai che non ti so dire l'orario esatto, però ieri sera sicuramente era tutto buio, tutto completamente spento. Cioè eri sicuro? Non è che per caso non avevi aperto gli occhi? Cioè eri sicuro di guardare un oggetto buio, non che non stavi guardando niente perché guardavi dentro del tuo padre? Effettivamente no, comunque potrebbe anche essere la seconda. No, comunque scherzi a parte, solo le case avevano le luci, invece la via e quello che era, insomma, l'illuminazione pubblica è tutto spento. Sì, a me è capitato l'estate scorsa quando ha fatto un sacco di caldo che in via Teodosio, angolo via Wilt era completamente al buio tutte le sere per almeno una settimana, era bellissimo. Solo una via regalava un buio poetico che non puoi vedere in città per l'inquinamento luminoso. Sì, poi la gente si schiantava contro i muri, le vecchiette cadevano nei buchi, ma va bene così. Esatto. Bravi, allora viviamo nel 1800, accendiamo le lampade a gas lungo la strada, bravi, complimenti. Andiamo in giro con i lumini. Vabbè, neanche... E anche quello, dai, comunque no, a Corsico succede, di solito quando piove un po' salta la luce, cioè sarà tipo la decima volta quest'anno, quindi non così strano. Beh, è un paese moderno comunque, quando piove salta la corrente, è bello, conosco anche alcuni posti, non lo so. Per risparmio energetico comunque, capito? Giusto, se sono per l'ecologia spinta. In maniera anomala e tutto quanto, allora vuol dire che qualcosa va storto, togliamo la luce. Nel dubbio togliamo la luce. Boh, è una roba un po' strana. Così non vedono i problemi i corsichesi, cioè l'idea forse in comune è se noi spegniamo la luce non vedranno che le cose non vanno e quindi andrà tutto esattamente. Bene. Esattamente, è comunque una strategia. E voi invece come va lì in quel di Zam? Ma da te ti è mai capitato di ascoltare la radio? Non la radio, sì, di Zambi, dico la radio in generale. La radio in generale, sì, anche, ma che cazzo di domanda è? Ti è mai capitato di infilarti? Sì, no, ma no, aspetta, perché era la prima domanda di una serie. Ma tu hai mai sentito qualcuno, un ascoltatore che chiedeva a Linus, oh Linus, come va Radio 105? Che domande fai? Ma veramente, ma stai in personale, stai nel tuo, stai nel tuo, allarga. Giulio, no, ma è vero. Giulione è una persona meravigliosa perché si preoccupa degli altri. Giulione è empatico, lo chiamavano Giulione l'empatico. Empatico. Grazie, poi diamo i diritti anche a Russell Crowe per questa fantastica scena. Ma io dicevo, volevo sapere da te. Anch'io volevo sapere una cosa da te. Siccome ricordati di più le chiamate della Vodafone, so che tutta la telefonia insomma è un mondo difficile, allora mi è venuto per empatia di chiedervi come stesse andando. Anch'io lo sto chiedendo agli operatori. Capito. Va bene, comunque mi pare di capire che dai, vada abbastanza bene. Ah, soccorsi, cose varie. Io aspetto ancora responso, tra l'altro. Cosa? Soccorsi. No, aspetta Giulio, non fraintendiamo. Non soccorriamo nessuno per adesso. Non facciamo rianimazioni, non operiamo a cuore aperto, quindi... Ma ci arriveremo. I soccorsi, non so, la solidarietà intendevi? Sì, dai. Ah, ok. Allora. Sì, dai, una parola per l'altra, ecco. Che problema c'è? Altrimenti mica ho studiato lettere 5 anni, vero Giulio? No, ma figurati. Se non avessi fatto la doccia, poco fa c'era connesso con noi Macio, che abbiamo chiamato, e ci ha raccontato della spesa di oggi. Insomma, Giulio, non ti lavare più, basta, dai. No, Lorenzo, ne ha fatte 6. Ne ha fatte 6 di docce, cioè, di docce, sì, magari. Ne ha fatte 6 di spese e ci ha tenuto a ribadirlo. Quindi, diciamo le cose come stanno. Ma buono, raga. No, devo dire che... Sì, è stato veramente un piacere. Veramente. Ci stai salutando bello. Così? Io purtroppo sono già abbonato, ho già un abbonamento attivo, quindi non posso proprio... Perché poi no. Le penali. Io metto giù direttamente, di solito. Diciamo in poche parole che devi passare, devi ascoltare i dischi dei Freni. No, vabbè. Ditemi che musica volete passare stasera. Così. Cos'è che ha chiesto? Così. Che musica vogliamo passare stasera? Devi dircelo tu. Esatto. Devo dirvelo io. Scegli tu la canzone, quello che chiamiamo sceglie la canzone. Ah, è vero, no, questa la sapevo. Ti eri preparato. Maggia. Sì, mettete dopo, dai, qualcosa tipo... aspetta, che adesso non mi viene. Mi sta venendo in mente una scena... Che ce l'ho. Mi sta venendo in mente quella scena del film di Albanese dove c'è lui che va nelle due cose di disco per fare qualcosa di underground. Molto underground. Molto underground. L'abbiamo fatto ridere. Ha riso. Anche a Corsico, nonostante il terzo like, ridono ancora. Incredibile. Quindi? Giulio? Renegade Returns. Eh? Mettete Renegade Returns. Renegade Returns, dai, è un classico. Renegade, sì. Returns? O dei Radium. Chi? Sì, vabbè, ma sì, sei mia sì, nonna, sì, Returns, metti Returns. Renegade Returns. Sì, quella, dei sì. Radium. Esatto, comunque, quella. Ah, dei Radium. Ah, ho capito. Yeah. Comunque, no, Giulio... Potevi anche esprimerti in una maniera comprensibile, comunque, Cioè, senso, no, dovendo scegliere lo stile linguistico da adottare, potevi scegliere uno che ti potesse capire, invece di dire cose in maniere strane. Giulio, sì. Ciao. Nel frattempo che cerchiamo il brano, che è una cosa che non occuperà più di uno, massimo 2 minuti, ma neanche, mi racconti... Bella, tagliatela. Tagliatela in che senso? In diretta? E come facciamo a tagliarla in diretta? Guglielmo, no, comunque... Non lo so. 2 o 3 minuti. Sì, stavo dicendo, nel senso, ma come passi le tue giornate? Ma guarda, fondamentalmente faccio... ricerche online, mi esercito su quel poco che ho del pacchetto, come cazzo si chiama, Photoshop, che tra l'altro è quello pacco perché sto aspettando che dal corso ci mandino il pacchetto completo, perché non è detto che la Lombardia ci passi fondamentalmente Illustrator e Photoshop. Finora non è stato così e probabilmente non lo sarà. Ma Giulio, scusami se ti interrompo, c'è una cosa divertentissima che ho visto oggi, che praticamente come si dice, Fontana si rifiuta di fare un'altra quarantena nonostante sia entrato in contatto con Bertolaso, che è risultato positivo al coronavirus, e ha accampato scuse tipo no ma l'ho visto solo 2 minuti, non c'è bisogno che faccia la quarantena, perché se n'era già fatta una un po' di tempo fa quando un suo collaboratore era rimasto, capito, fuori, cioè, ci rendiamo conto. Bellissimo. Raga, speriamo che lo arrestino. No, dai, arrestarlo no, perché vabbè. La galera non si augura a nessuno. Che compagno. Sei meraviglioso. Però Fontana un po', Fontana magari così quasi, tutto sommato. Due catenacci, giusto per fargli sentire il peso. Così. Un attimo, poi dopo dici no, vabbè, scherzavo. E gli siamo spari. Bravi, ce li passiamo. No, vabbè, comunque, che cazzo gli devo dire. È così. Non stupisce. Allora, la canzone c'è, l'abbiamo trovata, Renegade Returns dei Radium. Ti ringraziamo di tutta la tua compagnia e la prossima volta rispondi al telefono alla prima chiamata, se no non andiamo avanti finché non rispondi. Sarebbe bello, Giulio, per favore. Non credo. Va un po' come va, se ci sono ci sono, se non ci sono non ci sono, così. Va bene, grazie. Grazie Giulio, sinagismo. Grazie mille. Ci manchi un sacco, Giulio. Sei bellissimo in conferenza video, Giulio. Monsieur La Palisse, Giulio, from il Terzo Reich di Corsico. Grazie mille, ciao. Beh, è andata anche questa, via. È andata anche questa. Ascoltiamoci questa canzone. Simpatico Giulio. Ma veramente. Ragazzi, ma che pezzo ci ha consigliato Giulio? Grazie Giulio, a me piace un botto. Non avrei mai detto uno come Giulio che si ascolta queste cose. Pesce, dove sei? Pesce! Pesce in questo momento sta ballando come una pazza in mezzo alla stanza, sta tipo mollando quello che stava facendo per ballare subitissimo. We'll be right back. Chiediamo scusa per il piccolo spazio silenzioso. Io non chiedo scusa di niente, mi è salita una carogna, Giulio, che ti giuro veramente non ci stavo pensando fino all'altro giorno, mannaggia a te. Adesso abbiamo il livello di adrenalina 8000, ci tremano le mani, non riusciamo a tenere fermo il mouse. Cosa che succedeva anche prima in realtà. Va bene, secondo me siamo alla telefonata prima del... No, non è vero, abbiamo tempo ancora per una piccola telefonata. Dai, una prima piccolina, piccolina, prima piccolina. Prima del nostro grande ospite, quindi sono 18 prima, contateli anche voi a casa se Qual volete. Qual è la parola che ripetevo io ieri? Mi sentite? Mi sentite? Vi avrei ascoltare a chiunque, Lorenzo Picarazzi, che per 20 minuti dice mi sentite? Poi però lui è furbo, perché poi lui si fa da solo il podcast fuori. Della puntata e si toglie, mentre lui da come uno scemo nel vuoto cosmico del nulla pneumatico dell'etere dice mi sentite? Mentre parla tipo con la luna, mi sentite? Questa cosa non verrà, e questa cosa viaggia nell'etere fino a Marte, mi sentite? Mi sentite? A questo punto qualche marziano, qualcuno su Alfa Centauri dirà una roba tipo ma chi è sto coglione? Alfa cosa? A chiedere Alfa Centauri. Andiamo avanti, ciao Maria, io esco. Non sai cos'è Alfa Centauri, dai. Allora, stavo dicendo che benissimo. È vero, infatti anche questa parte qua tutti. Non verrà ascoltata nel podcast fino a questo momento. Fino a questo momento? Ma noi stiamo intendendo a registrare le cose che diciamo? Certo. Sì. Comunque secondo me è più vicino Alfa Centauri del posto dove vive lei. Assolutamente. Hai detto lei? Ho detto lei, che tanto non risponde. Che tristezza. Quindi abbiamo uno squillo di telefono femminile. Un collettivo di assenteisti femminile. Attenzione. Ma che cosa? Attenzione cosa? Mannaggia, non risponde nessuno. Secondo me sta facendo la doccia anche. Terribile, terribile. No, almeno le persone si lavano. Ci abbiamo provato. Signora Vodafone, salve. È in diretta su Radio ZM, benvenuta. Grandissima. Vabbè, chi possiamo chiamare a questo punto? Andiamo così, switchiamo al penultimo? Ma forse è troppo presto. Poi ma leggiamo qualcosa? Telefonico serio. Dai, leggiamo qualcosa. Guarda, andiamo sul sicuro che loro almeno ci vogliono. Lei ci vuole sempre bene, perché lui in realtà lo disprezziamo con tutto il nostro essere. Speriamo che vada tutto bene laggiù. Mi ha mandato un messaggio bellissimo l'altro giorno. Oh, sì. Che carina. A te ti vuole bene, al resto del mondo forse lo vorrebbe trucidare male. E credevo di essere parte anch'io di quel mondo lì. Se nemmeno Rachele ci risponde, ragazzi, veramente, cioè, cosa dobbiamo fare? No, ci tocca chiamare Riccardo? No, già lo sentiamo. Eccola! Buonasera. Ciao Rachele! Buonasera! Tu sei l'unica persona che ci risponde sempre con anche fantastica efficienza e benevolenza. Ti confidiamo anche che sei quella che preferiamo. Esatto, ho immaginato, sì. Per questo che ho smesso di ignorare il fatto che il mio telefono stesse vibrando sul tavolo. Perché fai questo durante la giornata? Cosa? Fai questo durante la giornata? No, avevo una mezza intenzione di farlo. Ma mezza, devo dire che subito sono rinsavita. Oh. Ma noi siamo subito dietro la tua intenzione. Noi facciamo rinsavire la gente, Lorenzo. Sei contento? È incredibile. Che bello sentirvi. Dai, dai, Rachele, news, raccontaci qualcosa di piccante, di caldo, dai, un po' di ciccia, su. Un po' di ciccia? Sì. Allora, c'è il mio ragazzo che non mi parla più, non mi guarda più. Chi è il tuo ragazzo? Ormai 18 ore, perché sta smadonnando davanti a un computer. Riccardo, no. Sì, è così. Abbiamo perso Riccardo dentro il tentativo di fare in modo che la gente possa colloquiare con la radio, ma in realtà, come si vede, l'unica cosa che funziona è chiamarli a casa, tranne quando non rispondono. Maledizione. Beh, quindi cosa raccontate? Ecco, vedi, Guglielmo, capita sempre la stessa cosa. L'altro giorno, comunque, è tornata la puzza di bruciato. Vedi, queste sono le cose che ci interessano. Esatto. Noi siamo una radio di prossimità, diamo voce ai quartieri. La puzza di bruciato di Zona Vittoria, perché? Ci deve rispondere qualcuno. Niente, il vicino questa volta stava facendo una grigliata. Ah, ok, quindi abbiamo già risolto così. Ma nel vostro condominio avete balconi su cui fare grigliate? No, non così grandi, sicuramente. Però evidentemente qualcuno si è spinto oltre. E invece è un po' quello che succede in strada, per esempio? A me interessa quello, sai. Quello che succede in strada. Oggi un tipo stava pisciando tra le macchine e si guardava attorno, tutto attorno. Anzi, forse questo ve lo racconta Riccardo, che è più capace, perché l'ha guardato lui. Ah, ma riesce ancora a parlare, nonostante le 12 ore al computer? No, ma io non ho voglia di parlare con loro. No, ma come, Riccardo? Non puoi dire così. Non è vero, non è vero. Sta scherzando. Cosa volete? Vogliamo tutto, tutto. Volete raccontare del tipo che stava pisciando? Sì, o anche di qualcos'altro, sai. È libera interpretazione, quello che vuoi. Semplicemente si è nascosto tra le auto guardandosi in giro in maniera guardinga, non rendendosi conto che dai balconi del sesto piano si vedeva lo stesso, finché una signora si è fermata dall'altra parte della strada, evidentemente perché sentiva un rumore d'acqua, e si è guardata intorno, e allora lui ha girato tutta l'auto intorno a cui era risposto, continuando a pisciare, dietro cui era nascosto, continuando a pisciare per non farsi vedere la signora. E vabbè, questo penso sia stato il massimo del divertimento più o meno di oggi. Oggi sì, dice Rachele. E niente, poi adesso sto impazzendo per provare a programmare sto bot. Ma... Vuoi parlarci un po' della cosa che stai tentando di fare, che a me interessa moltissimo? L'idea... Oh cazzo, mi è caduto il computer. L'idea è quella di creare un programma su Telegram che permette a chiunque di scrivere un messaggio liberamente. Questo messaggio lo riceviamo noi e gli possiamo rispondere. E il messaggio potrebbe essere, ad esempio, mettimi sta canzone, oppure leggi il suo articolo, oppure ciao, o cose del genere. Ma la mia domanda è, i messaggi arrivano in forma anonima o si legge anche il nome utente? Questa è una cosa da settare, cioè nel senso che il programma potrebbe anche far sì che il messaggio arriva soltanto a chi voglio io, cioè che vogliamo noi, oppure che il messaggio rimane e lo vedono tutti gli altri che aprono questo programma. Ma tutto questo è fantastico, è bellissimo. Sì, ma è veramente difficile, nel senso che io non sono capace probabilmente, quindi ho chiesto aiuto un po' in giro a degli amici che si occupano di programmazione, ma per ora non mi hanno saputo aiutare più di tanto. Quindi continuerò in perdere. Lo stavi facendo impazzire, a discapito mio! No, ma queste cose in diretta, ragazzi, per favore, manteniamo un po' di calma, perché sennò finisce male. Quindi, di chi è la colpa, Riccardo, scusa? Cosa? Di chi è la colpa, a discapito di chi? A discapito di chi? Mio! Sentito? Di Rachele. Vabbè. E poi è stato successo interessante. No, invece io volevo parlare anche di una cosa molto bella che è successa oggi, e di cui sono molto fiero, perché la voce che state ascoltando, signore e signori, oggi è già stata in radio senza essere in radio. Vogliamo parlare un po' di cosa è successo oggi alle 15? Rachele, non lo sai. Rachele, ma il tuo ragazzo era in diretta oggi con le pillole di ecologia, cioè, ma ce ne diamo conto? Scusate, ero troppo impegnata. No, perché giustamente tu pensi che noi cazzeggiamo e basta. Ho imparato a come avviare delle maniche a maglia, ragazzi. È giunto il momento. Davvero? Ce l'avevi già accennata questa cosa che stavi iniziando? No. Stavo iniziando un nuovo maglione, ma non che avrei finito e l'avrei saputo finire dall'inizio alla fine, completamente... mandando a fanculo tutti i sistemi capitalistici dietro a tutti la produzione dei maglioni. Sì, sì, sì, così, giusto! Io non avevo dubbi, comunque. Io sì, qualcuno sì. No, ma posso capirlo, però io ti assicuro che non avevo dubbi. E invece Riccardo ha costruito una bellissima parete di arrampicata, giusto? No, quella l'ha costruita mesi e mesi e mesi fa. Non ho capito, l'ha costruita? Mesi e mesi e mesi e mesi fa. Ah, ok. Adesso era solo iniziata ad usare. Vabbè, però l'ho vista l'altro giorno quando eravamo in call. Non può più andare in acciaieria, allora è appena iniziato ad utilizzarla. Giusto, giusto, mi sembra giusto. Ma niente, che dirvi. È stato un piacere. Avete, come sempre, il bellissimo regalo di scegliere una canzone. Fatelo bene, mi raccomando. E sapete oh, che... No. Sì, è la parte più bella della telefonata, scusate, vi potete scegliere un brano in diretta, poi ovviamente con un paio di minuti lo troviamo, però lo potete scegliere, prima me lo dite meglio è, perché vi devo tenere al telefono ancora poi. Allora, lo sceglierò e poi lo scriverò nel bot quando sarà pronto, ok? No, il gioco è diverso, il gioco è proprio adesso. Cavolo, adesso. Ma la prima cosa che ti viene in mente, vedi, quando facciamo questo gioco, le persone pensano che sia la canzone della vita. Aspetta, Riccardo ne ha una, vai. Si chiama Annarella? Annarella dei CCCP? Annarella si chiama? Boh. Annalisa. Quella... che fa... Come che fa? Annarella. Ah. Come fa? Parola. Non dire una parola. È Annarella. Vediamo, è incredibile, è già presente nel database di Radio ZM. Cioè, vi ho detto tutto. Vi siete divertiti? Assolutamente. Sì, Riccardo, accendi la radio che voglio ascoltarla. Non era accesa la radio, Riccardo? Aia. Aia, io guarda, ce l'ho, già ho provato, ma lui continua a ripetermi ogni volta che apro la bocca. No, sto facendo il bot. No, sto già facendo... Rachele, sei la voce della verità, ora sappiamo tutto. Grazie. Questa la dedichiamo non a Riccardo, ma a Rachele, Annarella dei CCCP, è tutta per voi. Grazie ragazzi, ci sentiamo presto. Ciao. Ciao Lore. insomma, cioè, tutto questo è bellissimo. Io... Bella sta canzone comunque, ragazzi. Ci hanno dato grazie. Una canzone fantastica che ci ha tranquillizzato un sacco. Sì, un pochino sì. Ci vuole ogni tanto, ci vuole. Siamo... Giulio dopo ci aveva sparato sta botta incredibile, adesso siamo, abbiamo un po' siamo decompressionato calmati. Un attimo e siamo un po' più normali. Mi spiaccio per essere dovuto scomparire, ma c'era bisogno di risolvere alcune questioni inutili, come sono inutile io. Ma siamo arrivati a una fantastica telefonata prima della telefonata del Maxi Ospitone. Esattamente, le nostre antenne stanno andando a captare un segnale a lambrate. Questa persona non ha molta dimestichezza col telefono, molto spesso non risponde. Vediamo. Ma potrebbe essere occupato. Risponderà. E soprattutto speriamo che rispondendo ci porti una birra del birrificio, che in questo momento ne avrei un disperato bisogno. Ma Giuliano è chiuso. E vabbè, fa niente, la ruba. Scusate. Cioè, pronto? Antonio, sei in diretta! Antonio, mio Dio, adesso piango! Antonio, ci senti? Sono fortissimi. Grande, come stai? Ma dai, bene. Guarda, io non voglio fare il maleducato come è stato prima Guglielmo, quindi Guglielmo, Antonio, Guglielmo, piacere. Piacere, Antonio. No, perché Guglielmo chiama i suoi amici e mi esclude. Lui ha chiamato il suo amico, io non ho parlato per mezz'ora, e invece adesso facciamo una bella menage à trois, insomma. Interessante. Quindi noi siamo qua e tu sei a Lambrate. Bene. Antonio, io volevo sapere un po' che succede a casa, sì. Come va a casa. Io da una settimana che sto aspettando Andrea Staid qui a Lambrate. Vabbè, così ci hai rubato tutta il pathos, tutta attenzione. La suspense. No, ma non ha sentito nessuno. Scusa, no, non volevo. Mi ma manteniamo l'anonimato. Dicevamo, come va in via Teodosio? In via Teodosio va bene. I condomini intorno stanno cantando ancora? Fa freddissimo, vero? Ma anche qua è arrivata una bora incredibile. E invece in da strada? Ha nevicato. Dov'è che ha nevicato? Da giù da me, giù da me. E aspetta, diciamo agli nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, dov'è giù da te? Giù da me è a Pignola, in Basilicata. Ha nevicato? Sì, ha nevicato. Bellissimo. Ma scusami Antonio, però tu parli con uno spiccato accento toscano, è possibile? Ma Guglielmo, cosa dici? Me lo dicono tutti quanti, Guglielmo, non lo so com'è possibile. Ora no. Però sì. Allora, adesso effettivamente è un po' cambiato, c'è un po' più della ciociaria forse, non lo so, c'è un ragazzo che fa il tatuatore, tanto potremmo anche fare pubblicità, la faremo dopo, adesso parliamo con te, che ha lo stesso tuo accento, però sembri toscano. Guarda, non lo so, penso che cambia di frase in frase, bellissimo, faccio così. Bello. Bellissimo, meraviglioso. E invece il quartiere, le volte in cui uscite vedete qualcosa di strano, di insolito, vuoi farci qualche segnalazione, qualche scoop? Ma no, in realtà di strano niente, anche perché io non esco da quasi 4 giorni più. E la spesa, Antonio? Tutti vanno a fare la spesa, vai a fare la spesa. Ho fatto una grossa e poi mi sto mangiando le robe tue, Lore. Grande. Ma guarda, io sono stessa identica pasta, incredibile. La spesa grossa una volta ogni 2 settimane se va bene, se no ciao. Anche perché poi questa situazione qua è ingestibile. Ma invece voi là sotto come state? Là sotto? Qua sotto diciamo che è un po' più freddo, secondo me. Secondo me è un po' più freddino. Però ce la caviamo in realtà, anche questa cosa bellissima che Guglielmo sta facendo di... Ok, grazie. Scusami Antonio che in regia siamo messi benissimo oggi. La solidarietà la solidarietà va avanti, nel senso che abbiamo ormai completato quasi tutte le formazioni, siamo pronti a partire. Oggi sono state fatte 6 spese da un solo nucleo operativo. Grazie. Io sto aspettando che mi risponda qualcuno. Ho mai scritto una mail un po' di tempo fa, sto aspettando che mi risponda. Quanto tempo fa? Boh, un paio di settimane fa. Adesso magari sollecitiamo anche un po' noi, perché in realtà quasi sicuramente, proprio per un'area geografica, penso che finiresti con la brigata dell'Ambretta, Lena Modotti, che salutiamo e che poi chiameremo sicuramente per salutarli, per farci spiegare come stanno facendo le cose. E invece, no, sì, comunque solleciteremo anche noi, perché è giusto che secondo me chiunque abbia un po' di spazio in questa cosa, che è molto bella e coinvolge un sacco di persone e di realtà, e mette tutti su un piano emergenziale un po' più attivo, nel senso che si porta solidarietà fisicamente alle persone. Però stiamo uscendo fuori tema, io in realtà volevo arrivare a parlare con te di tempi diversi. Perché questo? Sì. Perché mi vorrei ricollegare poi al famoso e anonimissimo, manteniamo proprio il segreto, ospite mamma mia quanto è anonimo, che ci sarà dopo. Però volevo parlare con Antonio, perché io e Antonio facciamo parte di un collettivo di poeti che si chiama Tempi Diversi, e lascerei la parola ad Antonio per introdurlo, ma proprio brevemente, 2 parole. Facciamo finta che lo stiamo raccontando a un bambino di 5 anni che non sa niente. Ma lo sai che ti sento un po' lontano, Lore, però penso di aver capito. Sì. Parliamo di Tempi Diversi. Esatto. Niente, Tempi Diversi è un collettivo di poesia di strada che nasce più o meno 5-6 anni fa. E prima del coronavirus facevamo dei microfoni aperti ad Anarres, verso il mercato comunale di Viale Monza, e ora li facciamo su Zoom. Mi sentite? Sì, sì, sì, sì. E poi io volevo arrivare appunto anche a parlare di una cosa che... Ora mi senti meglio, vero? No. No, niente. Niente, mi sento lontano. Prova a cambiare microfono, lontano, Lorenzo. Mi sento lontano. Mi sto avvicinando, Antonio. Va meglio? No, ti sento, non è cambiato niente. Vabbè, allora ci piace... Vabbè, però mi concentro. Ci atteniamo al decreto di tenere le distanze. E c'è una cosa bellissima che hai proposto al collettivo di fare in questi giorni, che è stato quello di riflettere sul momento che stiamo passando, elaborare qualcosa di scritto e poi inserirlo in un contenitore digitale a cui hai dato un nome. Sì, mi era venuta questa idea di creare una specie di scatola nera nel quale si potessero raccogliere le buone abitudini che stiamo prendendo in questo momento di stallo, perché è un momento del cazzo, però è un momento anche per riconsiderare un po' la situazione, che era un'opportunità che stavamo aspettando tutti da tanto e finalmente è arrivata. E quindi niente, boh, per esempio c'ho un mio amico che ha sempre sognato di mettersi a fa l'orto e non aveva mai potuto farlo, e mi era venuto in mente che se avessi potuto scriverlo da qualche parte e condividerlo, magari quando riparte tutto l'orto continua a farlo, per dire. Era proprio queste piccolissime cazzate, no? Oppure risparmiare, preoccuparsi di più di qualcuno. Per esempio, qui in Teodosio non succede niente se non i signori che stanno per strada inesorabilmente a chiedere i soldi, che non so come facciano, non so proprio come facciano. Magari qualcuno riesce a accorgersene ora, visto che sono rimasti soltanto loro per strada. E l'abbiamo chiamata scatola nera proprio perché potrebbe essere una specie di promemoria da ricordarsi quando tutto sicuramente partirà inesorabilmente come speriamo non peggio di prima, quindi può essere una specie di salvagente. Poi io ti ho fatto anche questa domanda perché mi sono ricordato di una conversazione che abbiamo avuto qualche giorno fa, in cui mi avevi suggerito di fare una domanda al futuro ospite anonimissimo che avremo più tardi, e c'erano proprio queste due parole, scatola nera, nella conversazione che abbiamo avuto. Sì. Vuoi raccontarmi un po', anche proprio così, la domanda, senza ovviamente parlare del soggetto in questione, senza nominarlo? Ho saputo che stanno raccogliendo, cioè un'altra scatola nera sta raccogliendo dei sogni che forse sono più complicati da gestire, perché poi ognuno ha il suo linguaggio nei sogni, quindi, però è un po' più o meno, sicuramente io sogno tantissimo. L'altra notte ho fatto un sogno, per esempio, che vedevo una ragazza bellissima e mi avvicinavo affettuoso, ci accarezzavamo, poi lei se ne andava e le chiedevo: scusa, ma quando posso rivederti? E lei mi rispondeva: la prossima volta che mi sogni, perché al momento non posso vedere nessuno. Quindi sicuramente un sacco di gente sta facendo dei sogni particolari legati a questo momento, che oggettivamente è strano. È vero, confermo, perché me li raccontano. Io personalmente, da quando è iniziato tutto, non ho ancora fatto un sogno. No, uno sì, ma non se ne può parlare. Però uno solo, e non era bellissimo. Meglio evitare queste scene pietose dove Lorenzo racconta i suoi sogni, però... Perché Guglielmo li sa, perché la mattina gli racconta. Purtroppo abbiamo anche la brutta abitudine di svegliarci. Ho fatto un altro sogno, l'altra notte sognavo che mi limonavo Hank. Oh. Ah sì, me l'hai detto! Ma infatti anche lui mi ha chiesto di te in sti giorni. Un altro, un altro cuore infranto da Hank. Ma quanti ce ne sono, Lorenzo? Quante persone ha distrutto emotivamente tuo cane? Beh, wow. Distrutte e salvate. E salvate. Antonio, ti chiedo l'ultima cosa, che è un regalo che... Boh, forte, ragazzi, io vi ascolto con piacere. Ragazzi. Madonna, madonna! Ma è bellissimo, ma è meraviglioso! È tutto bellissimo! E, facciamo sempre un regalo alle persone che telefoniamo, hanno la possibilità di scegliersi una canzone, qualsiasi canzone vogliano. E quando la scegli, poi avremo ancora un minuto da passare insieme, perché la dobbiamo cercare, scaricare, fare tutte le cose. E quindi dopo facciamo i saluti. Dimmi prima la canzone. Ok, allora io sto ascoltando in questi giorni una canzone di Cohen che si chiama Bird on a Wire. Leonard Cohen, Bird on a Wire. Sì, allora. È un po' una mazzata, però è bello. Ma noi ci piace, guarda, ma non ti preoccupare, forse Guglielmo, però adesso vediamo, secondo me può piacere. È passato di tutto. Scusa, oggi. Scusa, non ho capito, forse Guglielmo testo. Cosa? Cioè, è se io fossi un idiota, è bella, in radio, non ho capito. È bella questa cosa perché... A me capita di percepire che quando si chiede, a te non è successo perché hai avuto subito la risposta pronta, ma quando chiediamo questa cosa alle altre persone pensano di dover scegliere la canzone della vita. E dico, qui vanno nel panico. Invece non è così, la vita non finisce oggi con il nostro programma. Ho fantasticato quando chiedevate le canzoni, mi sarebbe piaciuto chiedervi di metterli Squallor, ma non mi sembra il caso. Dai, cioè, perché no? Ti rendi conto che la gente Squallor, cavolo, sì. La gente da casa fa cornutone degli Squallor, cambiamo tutto. Va bene, però a questo punto dobbiamo restare in radio un attimino perché ancora un minuto. Apro una parentesi, prima di saluti e la chiudo. Ti rendi conto che c'è gente che fantastica su di noi? Mamma, cioè, c'è gente che fantastica su cosa tremende, fare quando viene, chiamata da noi. C'è gente che poveri loro, deve essere una malattia grave. Speriamo più semplice del coronavirus. Antonio, io ti chiedo veramente col cuore. Ma voi come la passa? Cioè, secondo voi quando finisce tutta questa storia qua? Voglio. Ma... Allora, quante ore hai a disposizione? Perché abbiamo una risposta collettiva a questo, ma ci mettiamo tipo dalle 7 alle 19 giornate intere per parlartene. Non è facile. E praticamente è più facile che finisce il coronavirus prima che abbiamo finito di dirti quando finisce. È una roba un po' strana. Ok, vabbè, allora fa da solo. No, invece sai cosa noto, Antonio? Che tu sei la terza persona che chiamiamo stasera che invece che dirci come sta, ci chiede come stiamo. Esatto. E quindi questo probabilmente è sintomatico del fatto che la gente si è stufata di pensare a come sta e vuole occuparsi un po' degli altri, no? Vuole invece che parlare di sé, fa parlare gli altri. Madonna, quando ragiona così, Guglielmo, veramente sei troppo forte. Che sono tipo le uniche due volte all'anno in cui ragiono davvero. Quindi adesso chissà la prossima Antonio, volta quando succederà. Antonio, col cuore ti chiedo di salutarmi Davide, di salutarmi Paolo, Edoardo, Alex... Tutto l'ambrate. Grandi. Tutto il casoletto. Fra un po' facciamo un altro microfono aperto. Esatto, spingiamo anche questa cosa. Abbiamo iniziato, come diceva Antonio prima, a fare gli open mic su Zoom. Questa cosa solo a dirla mi fa ridere. Però ha funzionato. Io ho avuto un mal di testa per due giorni all'ultimo perché è stato talmente intenso che penso che mi sia esploso un pezzo di cervello e non me ne sia accorto. No, Lorenzo, perché ti sei bevuto da solo una bottiglia di rosso dell'Eurospinta a 1,20€ e per quello che ti esplodeva il cervello. Cioè, uno, poesia, un euro e 29. Ti sei avuto lo zolfo colorato di rosso e poi non si capisce perché stai male. Però ero vicino ai miei amici e alle mie amiche. Io sono molto felice. Il prossimo appuntamento probabilmente non è questa settimana, ma la prossima. Sbaglio. Ma tu puoi fare pubblicità agli eventi di Zoom di tempi diversi perché la gente si può aggregare liberamente? Sì, sono aperti. Che storia. Sì, sì, sì, noi mettiamo il link pubblico sull'evento Facebook. Infatti, l'altro giorno eravamo 60 più o meno. Beh. Bomba. Tre pagine sul computer di facce. Dai, Alfa, è stato Antonio, bellissimo. Perdonami. Tu confermi, perché Lorenzo è risaputamente un ballista. Se tu mi confermi, io penso che sia vero. Confermo. Perfetto, tu sei una persona affidabile, allora il te mi fido, Lorenzo non lo so. Va bene, noi cornutore degli Squallor siamo pronti a farla partire. Ti ringraziamo tantissimo, Antonio. Sì, devo alzare, ragazzi, questo livello. Sì, questo gesto imperioso che fai col ditino, Lorenzo. Sì, alza il volume, stai calmo. Stavo salutando, madonna. Ciao, Antonio. Come fai a sopportare? Sei fantastico. Ragazzi. Sei bello pure in radio. A comunque, presto. Antonio, mi pare di aver capito. Come, scusa? No, dimmi. No, è che praticamente partirà a brevissimo uno spin-off di questa trasmissione che si chiama Quel cornutone di Lorenzo quando lo vivevamo insieme e raccoglieremo tutte le peggiori testimonianze della gente che ha convissuto con Lorenzo. Tanta gente, eh? Tutta la gente che ha convissuto potrebbe con te. Potrebbe finire male. Antonio sarà uno dei primi a essere chiamato. Grazie, Antonio. Okay. Ciao, Anto. Ciao, Dave. Ciao, belli. Ciao. Cornutore degli Squallor e poi la telefonata con l'ospite, il maxi più nascosto stasera. Più nascosto del mondo. Ale. Miss si miuda fornindo Jess moga rimanghi sulla, ta manna fangula. O mia cara miss, e forte ce burais, ta dante nu curnutone, e manca per un milione, in un te chiavasse chiù. Curnutone capa sta via Modena vai, non chiagnere per st'amore, a che la non ci pensa, un casino figlio e bucchino senza cuore, ci fai male, e mare rara, il pulone te voglio bene con ma che, guardate stu povero uomo, una pera che può fa, per una femmina che te leva libertà, per un vaso in coppa una zizza, per stu cazzo che non s'arrizza senza te. Alliscimo sto bebè, yes. Ma il chiavo stesso e mica si offesse, oh yes. Cagato cazzo, perché mi sai sempre appresso, e in coppa su filo bus, tu mo che ci sai a fa, curnutone che per sta via mo te ne vai, non chiagnere per st'amore, a che la non ci pensa, tu casino figlio e bocchino senza cuore, ci fai male, e mare nare, tu pulone te voglio bene con ma che, guardate sto povero uomo, una pena che può fa, per una femmina che te leva libertà. Con un vaso in coppa una zizza, per sto cazzo che non si arrizza senza te, allisciamo sto bebè. E femmine so puttane, la vita so tutto guai, sta canzone per la vericcia verità. Non va se in coppa una zizza, per sto cazzo che non si arrizza senza te, allisciami sto bebè. Oh yes, ma il diavo stesso, e mica si offesse, oh yes. Oh mia cara miss, yes. Eccoci tornati. E siamo tornati, è stata bellissima la telefonata con Antonio, salutiamo via Teodosio, casa Persichini, i miei coinquilini, e tutto il casoretto, tutto Lambrate, tempi diversi, basta, finito. È finito di fare gli affari tuoi con la radio pubblica, e il servizio comunitario, collettivo, cioè veramente Lorenzo, soltanto perché hai portato qua la radio, hai fatto registrare le puntate, lavori, fai tutti quanti i podcast. Ho un cane bellissimo. Fai tutta la regia a chiunque, questo non vuol dire che allora tu possa rubare qualche secondo per te stesso, cioè renditi conto. Papà, hai sentito? Ci sentiamo dopo, dai, ciao, esatto, ciao. Bravo, ciao. Va bene. Abbiamo scherzato, abbiamo riso anche questa volta, però ci si impone a questo punto di andare a disturbare una persona seria, mentre io abbasso i volumi, perché sennò qua diventa uno schifo. Va bene, carissimo Andrea Stide, speriamo che tu abbia già mangiato lautamente la tua cena. Nel frattempo Lorenzo sta tirando fuori un rotolo di carta igienica di domande da fare a Stide. No, non gli puoi chiedere. Vabbè, sorvolo sulla battuta, perché poteva sembrare bruttina. Ma ai. Ragazzi, stiamo uscendo dalla fascia protetta, sono già le 9, possiamo già iniziare a dire le cose sconce. Va bene, per la seconda volta si è offerto con coraggio di risponderci al telefono. Andrea Staid, antropologo di fama internazionale, sarà con noi per un po' di tempo, non ben precisato, per rispondere a delle domande. Ciao Andrea. Buonasera. Ciao, ti sentiamo bassissimo. Ciao Andrea. Sono quasi sicuro che sia la colpa nostra. Così mi sentite meglio con il telefono. Ciao Andrea, come andiamo là dalle tue parti? Molto, molto bene. Dalle mie parti molto bene. Diciamo che il resto del mondo è più complesso, ma qua tutto a posto. Ma anche lì da te in Liguria c'è un freddo fotonico mostruoso ultimamente. Sì, infatti parlando di cose importanti sono preoccupato per le zucchine che ho piantato. Disastro qua, mi muore tutto ragazzi. Ma sei tu che hai esagerato e sei stato un contadino frettoloso e hai voluto piantare le zucchine troppo presto? Sì, mi sa di sì, però in realtà, cioè, sì, io sicuramente sono stato frettoloso. Però diciamo che non mi aspettavo una ghiacciata qua. C'erano 20 gradi, 10, 18, cose così. Hai detto, ma va che bello, il suo riscaldamento globale mi permette di piantare le zucchine a marzo, vai, esatto, ci butto. E invece no, e quindi adesso sì, ci sono 2 gradi. Esatto. Ne stavamo parlando stamattina con un compagno qui a Zamo, ovviamente mantenendo le debite distanze. Dicevamo che questo è un po' come quando ci sono quei vecchi signori un po' scorbutici che vogliono farti sentire che ancora però ci sono, e quindi fanno quell'ultima sferzata per dire: ehi, ma guardate che anch'io sono ancora qui presente. Quando poi in realtà settimana scorsa c'erano 20 gradi a 16 di marzo, cose che penso non siano mai esistite nella storia dell'umanità. Quindi mi sa che ormai il clima l'abbiamo bello che sconfitto, ma lui ci tiene ancora ogni tanto a ricordare che c'è. Esatto, esatto, ma va bene così. Va bene così, esatto. Non sarà mica colpa dell'impronta non lo so, non lo dico, parole complicate. Andrea. Andiamo avanti. Ciao Andrea, come stai? Sicuramente, Gulli, sicuramente. Sicuramente cose difficili che io non so dire. Beh, qua nel frattempo comunque c'è sempre Lorenzo che si è preparato tipo 138 Lorenzo. Domande che faremo tutte stasera, Andrea. Con calma. Bene, piano piano. Ma ti sentiamo un po' stanchino, un'impressione? No, sono cotto davanti alla stufa con un mega ciocco di ulivo che mi sta scaldando e sono bello bollito, ma no, non sono stanco. Beh, quale migliore situazione per parlare un po' di antropologia? Cazzo, che non ne faccio mai, ho tutto domani, ho solo 6 ore di lezione. Altrimenti... No, veramente, dai, allora basta, tutto all'aria, buttiamo via gli appunti, brucio le domande di Lorenzo. Parliamo di altro. Parliamo di, di digestione canina, parliamo di stelle, parliamo di cose a caso. Parliamo di cosa stanno facendo le situazioni, non so se avete, sì, ma sicuramente non devo essere io a dirvelo, c'è stata questa traduzione del volantino degli spagnoli che secondo me è molto interessante. Sì, l'ho ricondiviso anch'io su Facebook, è molto bello. Io non ne sapevo assolutamente nulla. Se volete ve lo leggo. Cos'è la traduzione degli spagnoli, scusami Andrea? È un volantino che dice, ricorda a tutti noi, anche a quelli appunto che vivono nel mondo dei movimenti, di non fare i poliziotti, perché come ben sappiamo non si fa mai il poliziotto, e soprattutto in una situazione come questa fare il poliziotto è ancora più disdicevole che farlo quando siamo in una situazione normale, probabilmente. Ah, quello lì, allora l'ho visto, ma pensavo fosse una roba tipo stai a casa. No, è molto bello. Non lo so, è interessante, perché è chiaro che io non sto dicendo, è giusto, cioè, stare a casa, capire come evitare i contagi, ci mancherebbe altro, però da lì a comportarsi da poliziotto ce ne passano, e quindi insomma diciamo che fra i punti più semplici ci sono quelli di dire se il tuo vicino esce perché va a fare la spesa, non guardarlo di merda o non pensare di chiamare la polizia perché anche tu stai uscendo per fare la spesa, oppure se becchi un venditore ambulante per strada non denunciarlo ma anzi aiutalo e chiedigli se ha bisogno di una mascherina e un po' d'acqua, cose così, cose basic, no? Però è importante ricordarle, visto che sui social si vedono dei deliri veramente di abbastanza incredibili, controllo sì. E cose varie abbastanza incredibili da un mondo in cui insomma mi aspettavo un pochino più di ragionamento, e invece a volte non c'è. Certo. C'è un adeguarsi totalmente a questa gestione calata dall'alto, no? Questo non vuol dire negare la situazione di emergenza, questo non vuol dire non capire l'importanza di un autocontrollo e di dover stare a casa in questo momento per limitare i danni. Detto questo, però, cioè, non ci si deve comportare in modo autoritario, non ci si deve comportare soprattutto da poliziotti. Questo mi sembra proprio il basic, insomma. Anche perché c'era qualcuno che diceva che lo stato d'emergenza creato per Expo non sarebbe mandato via, le misure restrittive, eccetera, eccetera, si sono fatti pure dei cortei, eccetera, eccetera, però adesso invece tutti a casa, dovete stare a casa, dici, ma insomma, non lo so. Io non l'avrei affermato con tutta questa sicumera, prepotenza, che l'unica indicazione possibile era la stessa indicazione che veniva data a canali unificati da Conte nella sua comunicazione emozionale. Non lo so. Io addirittura festeggiare perché ci mettono i droni per controllarci. Io festeggerei di più per l'autocostruzione di fionde per abbatterli, sti droni di merda. Vabbè, però sei sempre uno di sinistra tu, Andrea, eh? Madonna santa, mamma mia, quanto sei di sinistra. E nemmeno i droni a controllarti vuoi? E che cosa sarà mai? Ma qua sì, secondo me non ci vengono, però a Milano potrebbe essere. Potrebbe, sì. Ci faremo trovare pronti. Oltre a questo fantastico volantino, allora ci vuoi aggiornare un po' sulla tua quotidianità, sulle cose che, le piccole cose che danno fastidio al grande uomo Andrea Staed lì, autoconfinato dalle montagne della Liguria? Ma oggi la cosa che mi ha dato fastidio, anche se è sempre una bellezza della natura, è che mentre facevo legna c'era un vento bastardo in faccia che appena segavo mi veniva tutta la segatura in faccia, proprio nel naso. Quindi quello non è stato molto simpatico e quindi un po' di bestemmioni ci sono stati. E poi no, il resto mi sono inventato delle coperture per gli ortaggi, per il freddo. E poi mi sono fatto, no forse non si può dire, ma non ce ne frega un cazzo, mi sono fatto 6 km di camminata sui monti, che tanto bello. Non c'è nessuno a parte i cinghiali, quindi non rischio né di contagiare né di essere contagiato. Solo con 90 kg di cinghiale che ti caricano, che qualcuno dice sia forse anche un po' peggio di un'influenza talvolta. Ah sì, assolutamente, non ho beccato animali in realtà. Mi è successa una cosa divertente ieri mentre scendevo per andare a prendermi la cassetta di frutta e verdura del gruppo d'acquisto. Mi ha attraversato una puzzola in strada e non l'avevo mai vista in vita mia. Neanche io ho mai visto una puzzola. Sono emozionato. Pensate, che storia. Ma cioè, t'ha ignorato completamente o ha anche fatto un figurati, po'? Mi ha guardato, ha fatto lo sguardo psycho e ha cominciato a correre a 300 all'ora per dire: oh cazzo, ma quindi gli umani ci sono ancora? Speravo di essermene liberato. Aveva sentito su Skype anche lui i conigli del Parco Lambro. Sì, non è l'unica. Esatto, non è l'unica sicuramente. Non ricapiterà probabilmente. Esatto. E poi stamattina invece scendo nell'orto e c'era, però questo già è più facile, succede più spesso, e c'era un riccio gigante bellissimo che anche lui mi ha guardato e mi ha detto: oh cazzo, no, ci sei ancora, ed è scappato. Stufi, proprio stufi, tipo come quando pensavi che la mamma fosse uscita lasciandoti di casa libera, invece no, e torna indietro, lo stesso sguardo, identico, siamo ancora qua. Esatto. Quindi diciamo una quotidianità che le ascoltatrici e gli ascoltatori potrebbero trovare molto banale e noiosa, invece io mi diverto tantissimo. E poi ho scritto un articolo, in realtà. Così, no, tra una passeggiata, tagliare la legna e trovare la puzza, uno scrive un articolo, che ci vuole? Lorenzo, tu non li scrivi gli articoli? Cinque scritti. Dai, cominciamo a toglierci le domande difficili, va? Facciamone una, che sennò qua parlo solo di cose semplici e poi la mia mente si adagia sulla questione ortaggi e puzzole e non so rispondere. Sono cose molto veramente, io ti sto invidiando tantissimo, farei a cambio volentieri, però vabbè, tralasciamo questo discorso. No, le domande difficili le facciamo anche più tardi, noi ci interessano queste cose un po' più, cioè che escono fuori da un contesto diciamo troppo serio, perché il programma, anzi il palinsesto sta crescendo molto di Radio ZM, io ringrazio le mie compagne e i miei compagni per i bellissimi programmi super seri che facciamo, io e Guglielmo dobbiamo dire cazzate, abbiamo deciso di chiamare per Andrea Staed. Andrea, per contratto, non è che io sono abituato a dire cazzate o Lorenzo si adatta a questa mia no esatto, naturale, abbiamo firmato, esatto. Ci salverà la vita in questo momento molto particolare, essere messo in cassa della radio, cioè È così. In casa anche in radio, sì, è proprio così. E ovviamente noi vogliamo parlare di cazzate, decidiamo di chiamare Andrea Staed. Ci sembra giusto. È quella contraddizione che fa bene. La politica è la contraddizione come metodo, giusto Andrea? Non mi ricordo nemmeno che lo diceva, ma so che ogni tanto si dice. L'antimetodo. Comunque esatto. Guglielmo, vorrei sottolineare la grandezza e lo spessore del nostro compagno da casa che ci sta parlando, è l'unico che ancora non ci ha chiesto cosa stiamo facendo. Vero o no? Ma è quello che invece ci ha chiesto sotto quelle domande. Esatto. Grazie Andrea, grazie, perché esortiamo i nostri compagni e le nostre compagne a prendere esempio da questa persona. Esatto. Sarebbero persone migliori. È che, vabbè, devo ammettere che Lorenzo, appunto, non lo conosco, lo conosco poco, nel senso che abbiamo scoperto l'altra volta, se non ricordo male, che ci siamo incontrati solo una volta, sì. Ma Gulli lo conosco, quindi so che non sta facendo un cacchio inizialmente, è che è lì che si crogiuola proprio davanti a uno schermo per fare questa radio, e che mi sembra già un'ottima iniziativa rispetto allo standard del non fare niente di Gulli, quindi. Grazie. Ci ha detto che è un'ottima iniziativa, grazie, hai capito? No, ha detto a te che è un'ottima iniziativa, a me ha detto che marcisco davanti a uno schermo, beh, grazie. Io non porto rancore, ti faccio saltare in aria tutta la montagna, maledetto. Anzi, ti revochiamo subito il Ministero dell'Antropologia che ti volevamo dare quando faremo la rivoluzione alla fine della quarantena. E quindi mi toccherà il gulag, lo so. No. Dai, ti declassiamo al Ministero dell'Agricoltura, dai, va bene così, cioè. Ah, vabbè, no, ma io preferisco, sì, l'antropologia la facciamo fare a qualche professore annoiato, se sono d'accordo, sì. Di quelli bravi. Esatto, io vado a fare permacultura rivoluzionaria, ci sta. Ci sta, va bene, allora io vedo che Lorenzo è un po' come dire, lo vedo imbarazzato a farti le domande, allora inizio io, perché ho guardato, sì, ho studiato anche se molto esatto, male. Esatto, contestualizziamo. Ho studiato la tua seconda lezione, perché così lo ripetiamo a tutte quelle che ci stanno ascoltando, che Andrea Staide è così un grandissimo professore che sta facendo delle pilloline concentrate di antropologia culturale che mette su YouTube a libera fruizione di chiunque, che così possono mantenere i suoi studenti, le sue studentesse possono mantenere il cervello allenato. Sono delle pillole che mi uccidono, perché in 10 minuti c'è una quantità di informazioni che tipo io ci metto 45 minuti a vederle, perché metto il repeat e vado indietro di 10 secondi tipo 320 volte. Ma oggi ho capito una cosa. Attenzione Andrea, lo so per dire, ho capito una cosa, ma forse avevo capito male. Comodo. Vai, dimmi. Bravo, stai attento, perché queste cose sono quelle cose che tipo ai professori gli viene un coccolone. Cioè, c'è una cosa strana che tu dici nella pillola di oggi riguardo all'importanza della cultura. Cioè che gli esseri umani sono esseri culturali, perché alla fine noi mettiamo, per poter vivere in pratica, dei modelli culturali. Sì, non ha proprio detto così. Adesso arriva lo studente, esatto, quello preciso. Che... Bravo, complimenti. Era una citazione di un altro antropologo che diceva che siamo biologicamente carenti e che abbiamo bisogno di integrare la cultura per completarci. No, ma la cosa che mi è rimasta in mente di più era questa cosa qua. Mi ha detto, ma scusa, se io studio... Bisogna darci ragione, ha citato meglio di te, però comunque io apprezzo comunque questo. Ho capito, ma imparare la lezione a memoria non vuol dire averla capita. E adesso ti dimostrerò perché l'ho capita. Questo mi sembra giusto. Non ho capito? Se vuoi ti rendo ancora più difficile la domanda raccontandoti un aneddoto. No, vabbè, dai, io mi sono impegnato, pure studiato, tu mi rendi anche più difficile la domanda, dai. Non sei una persona carina, però. Però è un aneddoto che dà forza alla tua... alla tua affermazione che studiare a memoria non serve per comprendere di più, che l'ultima sessione d'esami, proprio quella di quest'anno, prima della chiusura dell'università, arriva una ragazza e mi dice, vabbè, io non ho portato nessun libro di quelli che tu ci hai dato da studiare. Io ho detto, vabbè, attenzione. E allora mi sa che l'esame non lo puoi fare, no? Così subito col mio approccio da professore di merda, e lei mi dice, no, vabbè, ma proviamo lo stesso. E allora io le faccio delle domande, l'esame è durato mezz'ora, è stato forse l'esame più bello di tutto l'anno, lei aveva scelto dei libri molto più giusti rispetto a quelli che avevo dato io per comprendere bene quello che avevamo fatto nel corso, abbiamo fatto una discussione incredibile e alla fine ha preso 30 lode. Però non era partito da quello che gli avevo detto io, ma da quello che pensava lei fosse giusto. Ovviamente aveva studiato di brutto, non è che è arrivata lì e ha detto quattro cose a caso, però non aveva studiato a memoria e aveva fatto un suo percorso particolare. Si sta sciogliendo. Sono premiatissima per questa cosa. No, sto per esplodere. Ma che odio, ma quanto sei di sinistra? Cioè, questa non ha portato i tuoi libri e tu l'hai promossa lo stesso, mentre gli ha attestato, digli no, idiota, dovevi studiare, non frega il cazzo che tu vai in giro a leggere il cazzo che vuoi, deficiente. Niente, sei troppo di sinistra per me, non c'è affatto. Oh, Gulli, dai, adesso non esageriamo, non mi offendere, di sinistra è una cosa proprio che non sai, che non si può dire. Cioè. Tu sei sempre stato per l'organizzazione, questo è da dire, poi dove sei l'organizzazione sinistra, destra, è sempre difficile un po' da capire. Vabbè, ma scusami, ma gli anarchici e comunisti non sono né di sinistra né di destra, sono anarchici e comunisti, cioè ben diverso. Di sinistra lasciamola al PD, agli sfigati che si presentano alle elezioni per far finta di cambiare le cose, noi le vogliamo cambiare veramente. Ci insegna qualcosa sempre, così. Questa la prendo come quote e la scrivo davanti alla radio. Bravo. Non so cosa voglia dire quat, ma sono sicuro che tu lo sappia. Detto questo, oh, Gulli, comunque io vorrei capire dove sei tu che vivi in montagna, non io, cioè dov'è che vivi veramente? Ma io vivo in un mondo bellissimo che è stato fatto di economia e commercio e scienze politiche fino a un certo punto, poi ho mollato tutto, ho fatto il muratore con dei ragazzi a Rozzano che mi hanno insegnato altre cose sulla vita. Per cui quat non so cosa voglia dire, però so, come, so che devi mettere in bolla i muri, perché sennò è un problema, quello lo so bene. Ci arrivano dei messaggi molto belli da io parte stavo facendo della... una domanda tipo mezz'ora fa. No, ma leggi il messaggio. No, no, non andiamo avanti. Andiamo. Arrivano gli insulti? Sì, verso di noi che elogiano te. Ci stanno scrivendo, minchia vi sta asfaltando. Quanta verità. Quindi adesso lui... Indovina, indovina chi è. Andrea Steiner è, come si dice, antropologo culturale, contadino e pure stradino. Pure stradino e ci asfalta di brutto. Va bene. Ci sta, ci sta. Io direi che a noi... questo punto faremo un post su Facebook con una fantastica giacca che è già di proprietà di Andrea. Perché lui sì che lavora invece nel nostro posto nostro. Mezz'ora fa volevo fare una domanda che era questa. Ma quindi vai. Se abbiamo detto che gli esseri umani sono biologicamente carenti, quindi si inventano la cultura per sopperire, perché la cultura è operativa. Questa cosa mi è piaciuta un sacco quando l'hai detto oggi nel video. Ho detto ma va che figata. Cioè effettivamente i modelli culturali servono per capire come ti devi vestire, ma un po' più in maniera un po' più complessa, cosa devi mangiare, cosa non devi mangiare, come devi prepararlo per non farti del male, come ti devi riprodurre, come devi trattare gli altri, come devi vivere le emozioni, eccetera, eccetera, tutti i modelli culturali. Ma io sono andato, ma perché questa definizione arriva negli 80 e la dice un certo, cioè arriva Harris, perché citavi questo Harris, la dice nel 1987, e tutta quella gente che ha parlato dell'essenza dell'essere umano, quindi tipo Cartese che diceva cogito ergo sum, qualcun altro prima che diceva che il moto circolare ispira l'amore, quindi tutti quanti noi viviamo l'amore. Perciò in poche parole mi sono detto, ma quindi arrivano prima gli antropologi e i filosofi nella gara di chi dice cos'è veramente l'uomo? Beh, guarda Gulli, stavo proprio in attesa della tipologia di domanda che potevo aspettarmi dopo tutto questo preambolo. Ed è una domanda di merda, comunque. Ma ti rispondo in un modo semplice, cioè in realtà la separazione delle discipline ha senso soltanto per la fabbrica della cultura, no? Quindi filosofi, antropologi, sociologi, cioè queste differenze sono fatte soltanto per vincere posti in università. Quindi se uno studia profondamente e soprattutto non separa gli aspetti pratica, teoria e pratica, cioè sono quelli che possono darci le risposte migliori. Dal mio punto di vista, sul discorso della comprensione del senso della cultura come operatività umana l'hanno data più correttamente gli antropologi, e in realtà non è stato Harris, Marvin Harris, che cito nella slide, è un antropologo marxista, materialista, molto interessante, che dà quella definizione che io avevo scelto di dire, ma in realtà già nel 1871, se non sbaglio, adesso magari mi sbaglio sull'anno, però fino all'800 c'è questo antropologo che si chiama Taylor, che è il primo che dice guardate che la cultura è quello che ci rende umani praticamente, no? Però appunto io ho citato poi Harris degli anni 70-80 perché mi stava più simpatico, però appunto in realtà era già da un secolo che si era capita questa cosa. Diciamo che ancora oggi molti non l'hanno capito, però vabbè, cioè, è chiaro che questa qua rimane un dibattito. Diciamo che per la maggior parte di quelli che sono i filosofi, gli antropologi contemporanei, più o meno, con vario dibattito che si potrebbe fare, però potrebbero essere d'accordo con quelle quattro cose che dico durante la seconda lezione sulla cultura. La cosa interessante, secondo me, che è quella che poi hai già inserito tu nella domanda, che è il motivo per cui era importante per me subito affrontare la questione di che cos'è la cultura per gli esseri umani, è il discorso che quello che noi siamo e quello che noi facciamo non è un assoluto, non è un obbligo, non è qualcosa che esiste in natura, ma sono tutte costruzioni, e quindi inutile dire che il capitalismo è una costruzione culturale, non è un modo giusto di vivere, e quindi è una costruzione specifica che si è creata. Capitalismo significa lavoro salariato, significa sfruttamento dell'uomo sull'uomo, significa visione antropocentrica e dominazione della natura, degli animali, tutto quello che si porta dietro. Adesso poi non si può, non voglio veramente annoiarvi troppo, però quello che poi ho anche scritto nei commenti con le persone con cui che poi mi hanno scritto su, sia su Facebook che via mail, la questione del potere per me era molto importante, cioè il fattore che pensare, visto che tu hai fatto delle citazioni auliche, cito anch'io quello che diceva che gli uomini sono tutti brutti e cattivi, uomini lupus, in realtà l'uomo in natura, dal mio punto di vista, non è niente se non si costruisce culturalmente, no? E quindi non c'è ragion veduta per dire che il potere coercitivo, il dominio, la dominazione sia naturale, quindi che l'uomo in natura è cattivo e si uccide a vicenda, non è così. L'uomo non è neanche buono in natura dal mio punto di vista, quindi dall'altra critico anche un Kropotkin che mi sta molto simpatico, che però pensava che l'uomo in natura è buono, è un essere che coopera. No, io non credo in nessuna delle due cose, quello che dico io è che si deve costruire la relazione di potere, la relazione sociale, e quindi il potere coercitivo, che è quello che insomma ci fa stare una merda durante tutti i nostri giorni, è una scelta specifica, è una costruzione specifica, e secondo me capire questa cosa appunto non è un assoluto è già interessante per pensare altri modi di gestire il potere, il lavoro, le relazioni, no? Che tutti i giorni abbiamo davanti, quindi per quello è interessante capire che cos'è la cultura. Beh, wow. Grazie, wow, fantastico, penso che riemergerò dall'aver capito tutto questo discorso tipo il mese prossimo, ma va bene così. Ci ha asfaltato un'altra volta, può darsi, sento odore di catrame, sì, questo, un pochino, sì. Grazie Andrea, e procedo io con quelle che sono le mie riflessioni a braccio. Faccio una premessa perché sono un paraculo, io arrivo da un percorso di filosofia, nel senso che sono laureato in filosofia, quindi tutto quello che posso stare per dire potrebbe essere un'enorme stronzata. Avendo ascoltato la pillola di oggi mi ha colpito molto perché mi trovo estremamente d'accordo, e parto da un'esperienza personale, nel senso che non mi ricordo bene quando, ma c'è stato un momento in cui ho iniziato a farmi domande su effettivamente che tipo di abitudini io stessi prendendo e perché. E l'esempio che hai fatto del cibo mi ha colpito molto. Io faccio sempre l'esempio, io ho un cane, sono innamorato di questo cane, ma sono convinto del fatto che se mi avessero allevato e cresciuto in un contesto in cui si mangia il cane, io il mio cane me lo mangerei, ok? Certo. Uscendo da questa logica, hai fatto un riferimento adesso che mi dà proprio il ponte per arrivare al discorso che volevo fare io. Hai parlato di capitalismo e dell'errore che si commette nel pensare che sia una struttura che regge, come stiamo vedendo giustamente. Quindi parliamo di giusto e di sbagliato. Ci inseriamo in un discorso morale. Quando si parla di usi e costumi, quando si parla di derive che si possono prendere, sia volontariamente, quindi imparando e osservando in comunità certi atteggiamenti, sia involontariamente, quindi nel nucleo familiare assisti a delle scene, magari anche in tenera età, e ti abitui a quelle dinamiche lì, mi chiedo come possiamo figurare a livello culturale le cose negative. Faccio un esempio. La violenza domestica, la violenza sui minori, tutta una serie di contesti che, se vai a chiedere al diretto interessato, ovviamente non prendo casi estremi, ma prendo il marito che trova giusto picchiare la moglie perché in casa sua si faceva così e perché è giusto che una persona, se ti vuole prevaricare, tu la prevarichi con la forza. Come ci si può comportare davanti a degli episodi del genere, cercando di convincere, come siamo convinti noi, che certi attaccamenti culturali siano sbagliati? Beh, guarda, questa domanda è perfetta, nel senso molto interessante, tanto che la prossima lezione di antropologia pillola che farò è tutto su questo, cioè su che cos'è relativismo, e quindi farò una differenza fondamentale che io trovo fra un approccio relativista metodologico, e quindi un approccio che ci fa comprendere l'altro, ha un approccio invece relativista etico che giustifica ogni tipo di atteggiamento, no? Perché uno potrebbe dire, vabbè, ma se tutte le culture hanno libertà di scelta, chi sono io per dirgli che quella cosa è sbagliata, no? Se ho capito bene la domanda. Esattamente, esattamente. E quindi sì, io credo che invece sia importante prendere posizione, e quindi io ti faccio degli esempi più complessi, però tipici dell'antropologia quando si parla di relativismo, che possono essere infibulazione, scissione clitoridea o pratiche insomma di estrema violenza sul corpo della donna da parte della società. Queste pratiche chiaramente sono assurde, sono sbagliate e io vorrei che non esistessero, però sono anche convinto che non basta che l'Unione Europea dica facciamo una legge contro queste cose e quindi non succederà mai più. Non è così, lo sappiamo benissimo, non basta una legge. Quello che serve è una mutazione culturale che deve essere costruita per forza di cose, una parola che a me non piace molto perché suddivide basso e alto, però dal basso. Dal basso cosa significa? Che secondo me per produrre mutazione culturale bisogna comprendere un fenomeno, approfondire e capire perché e come mai si è creata quella pratica assurda, e per poterlo fare appunto bisogna far sì che le persone, e soprattutto in quel caso le dirette interessate, le donne e in secondo luogo, ma comunque anche assieme gli uomini che fanno parte di quella società che pratica questa assurda tradizione patriarcale sul corpo della donna, debbano fare di tutto per lottare, prendere posizione, far sì che questa cosa qua non succeda più. Chiaramente è complesso, è molto complesso, ma ha a che fare anche, un altro esempio che possiamo fare è quello del lavoro, no? Dal mio punto di vista è allucinante che noi dobbiamo lavorare per dei soldi, è una cosa oscena, io non credo che si debba non fare niente, non credo nell'ozio, a me piace lavorare. Non mi piace lavorare, pensare di lavorare per la comunità in cui mi riconoscono e non perché qualcuno mi dà dei soldi. Chiaramente non è quello che faccio tutto sempre, diciamo che mi capita spesso di fare questo, però come fare per cambiare questa concezione del mondo? Beh, attraverso le lotte, attraverso le frequentazioni, attraverso lo spingere fra diversi soggetti agenti, cioè agenti nel senso di attivi, il fatto che si possa pensare diversamente, che il pensiero dominante non è l'unico possibile, e farsi appunto tramite, anche adesso degli esempi facili, stupidi, tramite seminari, presentazioni di libri, occupazione di spazi che producono una cultura differente, cineforum, tramite scambio, banca del tempo, questo per quanto riguarda il lavoro, chiaramente. E quindi io credo che sì, per prendere posizione però e capire in che cosa pensare su una determinata tematica, è interessante però saper relativizzare il proprio sguardo e quindi comprendere perché quella pratica che a noi ci disgusta viene fatta, e soltanto dopo che si è capito il perché questa pratica si è diffusa e viene fatta si può contrastare nel migliore dei modi. E quindi insomma è complesso, ovviamente la mutazione culturale è lenta. Io sono anni che, così almeno facciamo arrabbiare qualcuno che all'ascolto e ben venga, perché il dibattito è il sale in questo caso di capire cosa ci stiamo dicendo anche noi. Quello che volevo dire è che per esempio per me il concetto del cambiamento, della rivoluzione, della rivolta, insomma usate l'accezione che preferite, non può essere un momento ma è un processo. E quindi è un processo che va vissuto con del tempo e con delle costruzioni culturali o controculturali, che forse capiamo meglio cosa voglio dire. Dire momento e processo sono due cose ben diverse. Io non credo che sia possibile da un giorno con l'altro cambiare tutto, perché se io prendo la Bastiglia, ma tutte le persone che l'hanno presa non sono cambiate, non sono mutate, e certo, dentro di loro continuano a essere le persone che erano prima del cambiamento, tendenzialmente sarà un cambiamento che non porta dei reali risultati. Insomma, l'ho preso un po' alla lunga, me ne rendo conto, però non era semplice rispondere. Sono contento perché bene o male ci siamo dati la stessa risposta. Io mi ero già dato una risposta, però volevo sentire anche la tua. Io ho altre due domande. La tua risposta era esattamente come la sua, guarda, sicuro avevi la stessa identica risposta. Io meno, vabbè, dai. Vai, la seconda domanda fai tutto tu. Ricordati però che lo stiamo già disturbando una mezz'ora, quindi magari lui a un certo punto avrebbe anche diritto allora di tornare alla sua vita. Ne scelgo una delle due. Un uccellino, ovvero un mio amico, un mio caro amico, mi ha contattato perché sapeva di questo ospite anonimo che andiamo a chiamare il mercoledì sera, raccontandomi di una cosa che stai facendo ed era curioso di sapere il tuo parere. Ci sta ascoltando, quindi salutiamo Antonio da Via Teodosio. Mi ha parlato del fatto che ho visto che ha fatto un'intervista sui sogni. C'è un suo amico antropologo che sta facendo una sorta di scatola nera sui sogni in quarantena. Vuoi parlarci di questa cosa? Ma allora, sì, certo. L'intervista che ho fatto è un'intervista che avevo fatto qualche anno fa a un'antropologa donna che si chiama Arianna Cecconi, che ha scritto un libro veramente meraviglioso che all'epoca avevamo anche presentato con lei al Circolo dei Malfattori di Milano, che si chiama I sogni vengono da fuori. ed è tutto un lavoro che lei ha fatto sulle Ande per 3 anni, facendo un'etnografia, quindi una ricerca sul campo, su quello che di solito non viene indagato, cioè la vita notturna. E ha fatto questa ricerca appunto parlando con soprattutto le donne andine che avevano vissuto da una parte la repressione di Stato e dall'altra le problematiche con la guerriglia del Sendero Luminoso. E insomma è uscita fuori, secondo me, un'intervista molto bella, non tanto per le mie domande ma soprattutto per le sue risposte. Caso vuole che viene ripubblicata su questa rivista che si chiama Matrica, che è una rivista gratuita online con la quale collaboro, di scienza e non dualità. Però vabbè, qui non mi perdo troppo, perché sennò se vi devo dire che cos'è la scienza e la non dualità ci mettiamo 7 ore, però potete andare sul sito, tanto è gratis, e guardarvela. E ripropongo questa intervista. Lo stesso giorno che esce la rivista, Matteo Meschiari, insieme a questo suo gruppo dico il suo nome perché gli altri non li conosco personalmente, conosco sicuramente Maurizio Corrado, Antonio Vena e tanti altri fanno parte di questo gruppo che si chiama La Grande Estinzione, e hanno deciso di lanciare questo progetto, che è proprio di raccogliere, scriverci cosa stiamo sognando in questo periodo di Covid-19, di com'è cambiato il mondo notturno per molti di noi, e di raccogliere questi sogni per poi fare una specie di romanzo sui sogni nell'epoca dell'Antropocene. So che però è a numero chiuso e so che hanno partecipato in 2 giorni più di 100 persone, e numero chiuso non per voler escludere qualcuno, ma perché immaginatevi, sennò viene fuori l'enciclopedia, no? 12 volumi e non la leggerebbe nessuno, quindi so che c'è stata già una grande adesione, però non ne sono sicuro perché non sono dentro al progetto, quindi insomma andate a vedervi sul sito loro della Grande Estinzione.wordpress.com, credo, comunque La Grande Estinzione, trovate sicuramente dei riferimenti, Matteo Meschiari, se avete i social network sicuramente nella pagina della Grande Estinzione, su quella di Matteo Meschiari trovate tutto, e stanno facendo appunto questa bellissima iniziativa dove si parlerà appunto di cosa succede nel mondo notturno, cioè come sono cambiati i nostri sogni da quando siamo tutti agli arresti domiciliari. Grazie. E senza nemmeno una sentenza del GIP a convalidare l'arresto, hai visto? Guarda, incredibile, veramente. Ma ascolta, ma una domanda che c'è, una curiosità proprio che mi è venuta, a cui magari tu mi puoi rispondere anche semplicemente no. Ma tutta questa condizione appunto di massa, gente costretta a stare in casa, convivenze forzate o non forzate, gente separata, gente che deve stare insieme appunto per cause di forza maggiore, non ha fatto rinascere in te la voglia di partire col microscopio ad analizzare come stanno gli esseri umani in queste condizioni particolari? Cioè non hai la smania di dire, ma vediamo cosa succede a questi strani insetti chiamati esseri umani che adesso sono costretti a stare per forza nelle loro scatolette? Cioè non so come dire, da antropologo non ti è venuta voglia di studiare la situazione, dire ah ma che roba quasi interessante, no? Ti rispondo da stronzo. Non Beh. Essendo un antropologo fisico non mi interessa il microscopio, ma essendo un antropologo culturale mi interesserebbe molto parlare con tutte queste persone lungamente per capire che cosa sta succedendo nelle relazioni quotidiane, no? Quello sì, quindi mi interessa molto, credo però che ci vorrà del tempo per produrre delle ricerche serie fatte bene da questo punto di vista, anche perché se abbiamo capito quelle cose confuse che ho detto prima sulla mutazione culturale, chiaramente si sta producendo una mutazione culturale, e uno dei compiti che dovrebbero avere le persone come voi, che hanno una radio, che hanno un centro sociale, che hanno un collettivo, sarebbe proprio quello di indirizzare questa mutazione culturale, so che lo state sicuramente già facendo, verso una solidarietà, un mutuo appoggio, e non verso la separazione, l'autocontrollo, l'autodenuncia o appunto la denuncia degli altri, no? E quindi pensare che da questa situazione ci si possa uscire con una mutazione culturale che non sia quella, visto che ormai ci sono i droni per controllarci, teniamoceli tutti i giorni, visto che ormai siamo abituati a lavorare attaccati al computer, rimaniamoci, certo. Visto che siamo abituati a denunciare quello perché butta la carta per terra che è uscito, continuiamo a farlo, continuiamo a avere le telecamere, no, invece quello che sarebbe positivo sarebbe riuscire a fomentare invece una solidarietà fra le persone che si sono ritrovate rinchiuse, partendo dalle cose semplici e banali e veramente riformiste, capire che per esempio tagliare la sanità pubblica è un grave errore, quindi tutti quelli che l'hanno sempre fatto, non cagarseli più di striscio, esatto. E cose simili, no? E quindi diciamo che secondo me sarebbe molto interessante riuscire a puntare su questo e poi produrre anche degli studi, ma gli studi sono secondari rispetto a queste cose, nel senso che sarebbe più importante, più che studiarla, farla questa cosa. E poi anche a me piacerebbe anche sì comunque studiarla e capire cosa sta succedendo anche dal punto di vista negativo, anche perché è chiaro che non sono così stupido da pensare che ci sia solo una mutazione culturale positiva, anzi devo ammettere che sono un po' pessimista, anzi, che tendenzialmente sia più quella negativa che quella positiva, però vediamo, nel senso che dopo una situazione così magari invece c'è tanta voglia di stare assieme, c'è tanta voglia di andare ai cineforum, alle cene collettive, ai concerti autogestiti, chi lo sa. Io spero, cerco sempre di essere un po' positivo, ammetto. Noi a Zam, se vuoi possiamo anche già invitarti, però stavi per ammettere qualcosa, quindi ammettilo. No, no, dai, stavo dicendo una cosa pessimista, non diciamola. A Zam, dicevi? No, noi a Zam stiamo già pensando a una pasta, tipo a fare una pasta asciutta per strada appena finisce la quarantena, robe da 130 invitati, tavoli in mezzo alla strada. Se potrai, sei invitato anche tu. Cioè ti invitiamo come nostro ospite perché ti abbiamo rotto le scatole, più o meno ti romperemo le scatole lungamente durante la quarantena se ce lo permetterai, per cui poi avrai un posto a tavola con noi. Assolutamente. E ci porti le zucchine se non congelano, track e via. Pomodori. Va bene, allora per concludere in bellezza, comunque l'abbiamo notato perché siamo studenti attenti che abbiamo finito esattamente da dove siamo partiti, cioè dall'evitare di essere sbirri. Visto. Perché... A questo perché punto ti... Una certezza. Cosa? Perché rimane una certezza. Cioè, quella sicura è una certezza comunque. A questo punto invece le buone abitudini, quelle dobbiamo mantenerle sì. Dici un bellissimo brano con cui vuoi concludere la nostra chiacchierata. Allora, anche questa volta direi con quello che mi scorreva fra la testa stamattina e continuerò a essere un po' ad annoiare un po' gli ascoltatori e le ascoltatrici e direi... Don Bias, scritto con la Y, e non è un prete, attenzione, Don Bias, con la Y. Esatto. Bias? Sì. Easy to love. Facile da amare, come il fantastico cane di Lorenzo. Tu dovresti vederlo, il cane di Lorenzo è una persona meravigliosa. Guarda Andrea, metto giù, ti mando la foto su Facebook. Io sono sicuro che amerei di più il cane di Lorenzo che te, Gulli. Anche io. Vabbè, ma questo è semplice. È una questione proprio amore fisico, intendo. C'è proprio un'attrazione... Diciamo che mi farei leccare molto più facilmente da lui che da te, però... Ma questa cosa non la capisco invece, come mai? Non si sa mai, poi dipende, magari è la serata giusta potrei... Esatto, chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa. C'è un barlume di speranza qua. Esatto. C'è un po' di... Sì, cioè, mi sta lasciando la porta aperta. Va bene, Lorenzo, trova qualcosa non troppo inutile da dire in questi momenti mentre io cerco questa canzone. Andrea? Non c'è? Dimmi. No, la troviamo. Scaricando. In 10 secondi, riusciresti a dirmi se in questo momento le controculture possono ancora essere influenti in qualche modo o meno? Secondo me in questo momento potrebbero esserlo molto di più che 2 mesi fa. E quindi per questo io credo che sia importante fomentare la riflessione. Nel mio piccolo quello che cerco di fare è proprio questo, sia attraverso le lezioni, anche se ovviamente in modo molto ampio e prendendolo in modo insomma tangenziale, però sì, secondo me questo è il momento proprio in cui è importante continuare a riflettere e soprattutto dare e cercare di produrre delle non dico delle risposte, quantomeno delle domande collettive, perché poi le risposte si trova assieme nel momento in cui ci si mette in cammino. Beh, meraviglioso. Grazie. Fantastico. Che dire. Grazie mille Andre, grazie davvero. Ci sentiamo mercoledì prossimo, nel frattempo ci guarderemo i tuoi video fantastici, raccoglieremo forse a questo punto anche delle domande che arrivano dal pubblico, perché a questo punto se Antonio ha avuto questa bella idea, perché no? Così sarei costretto a fare lezione anche al mercoledì sera. No, dai, non è vero. Prima parliamo sempre di cose più divertenti. Però tu non segui il calcio, cioè non so, possiamo parlare sì di zucchine. Adesso... Di film. Film, dai, ci sta. Sì, il calcio ammetto che sono proprio... Mi cogliete totalmente basket, impreparato. Basket, rugby, golf. Beh, io ti ci vedo come golfista. Il cappellino è quello giusto. Faccio cagare, ragazzi, scusate. Niente, va bene, io con te non seguo niente. Ti accettiamo quindi... per quello che sei. Guglielmo parla da solo. Culturale, va bene. Ti ringraziamo ancora, buona serata, ci risentiremo. Ciao, Ne. Ciao a tutti. Ciao. Easy to love, Don Bias, la scelta di Andrea Stati per questa sera e andiamo a ascoltarci questa bella canzone. Oh mio Dio! Allora, siamo fatti prendere dal romanticismo e dalla serenità, no, con il pezzo che ci ha portato. Scriveteci sulla pagina Facebook cosa pensate che sia ci siamo fatti prendere dal romanticismo. Siamo curiosi di saperlo. Cosa, qual è il problema, scusa? È che c'era una canzone così bella sotto, i microfoni spenti, cosa vuoi che pensi la gente a casa che abbiamo fatto? Ci siamo fatti prendere il romanticismo. Ah, qual inteso... è il problema? Stavamo limonando, no, dobbiamo dire che stavamo limonando? Diciamo che stavamo limonando perché la canzone era molto bella e Andrea fa questo effetto. È vero, ringraziamo ancora Andrea Stide, Radio ZM. Aspetta di masticare con le noci che hai in bocca. Ma io muoio. È vero, tra l'altro. Come faccio adesso se mi viene un attacco, Guglielmo? È un casino. Non lo so. Io cioè, ti se chiamo un'ambulanza dicendo che non respiro, mi rido io in faccia. Io tipo che in shrug ti perforo un polmone con un dito, però almeno respiri. Ah, ok, come hai fatto l'anno scorso. No, scherzo. Che brutte scene. Allora. Comunque è ufficiale, Andrea Stide ci ha chiesto il link per ascoltarci. Davvero? Cioè, a questo punto quindi abbiamo guadagnato un grande ascoltatore, ma a questo punto tu mi dicevi prima di fare un'operazione. Vabbè, dai, facciamo ancora una telefonata, chiudiamo tutto e spegniamo. E facciamo no. Quest'ultima telefonata, facciamola. Secondo me dobbiamo chiamare lei, perché secondo me dopo questa telefonata ci sta, una telefonata un po' più così. Adesso vediamo se però forse è troppo tardi, perché lei è una persona seria che a queste ore fa altre cose, cioè tipo andare a dormire. Perché ha una sua dignità da difendere, a differenza nostra che facciamo schifo. Scusate, questo quasi sempre orrendo. Chiara Buzzi, rispondici, perché attenzione, vogliamo un attenzione dalla, come si dice, dalla quotidiana aggiornamento di cose di cui non ci interessava molto. No, com'è che era il nome preciso della trasmissione? Allora aggiornamenti quotidiani, non aggiornamenti, no. È tutto quello. Eccola! Buonasera, Chiara! Buonasera! Carissimi, siete veramente con una puntualità quasi svizzera, mi avete beccato in uno dei miei momenti favoriti della giornata, anzi, sull'iniziare di uno dei miei momenti favoriti della giornata. Fantastico! Quale sarebbe il momento favorito della giornata che inizia più o meno alle 21:54? I fumenti! I fumenti! I fumenti! Noi li portiamo! Hai visto? Ti portiamo una nuvola di vapore al sapore di eucalipto, ma quindi ci puoi parlare o ti si raffredda la pentola che poi bestemmi che devi accendere? No, per vostra fortuna non ho ancora, per vostro infinito piacere e fortuna non ho ancora messo nulla all'interno dell'acqua bollente, quindi posso aiutarvi per qualche istante. Pensa Guglielmo, ogni volta che farai fumenti da domani in poi si ricorderà di noi. E noi la chiameremo, così, ma anche, fuori, anche senza essere radio, ma siamo a casa, pronto? Chiara, ciao, come vanno i fumenti? Da posto. Comunque bisogna anche ammettere che anche a me piacciono di brutto i fumenti, io li chiamo il Sufimigi. No, ma a me non piacciono, veramente, non piacciono? Stavo solo comparandoli a questo momento, no, scherzo. Ah, ok, quindi siamo proprio quella fastidiosa nuvola di vapore a sapore di eucalipto che ti entra nel naso e ti metti a piangere mentre la faccia tutta fresca però col vapore caldo. A me piace un sacco. No, guarda, oggi ho fatto i compiti e vi ho anche sentito per parte della trasmissione. Che brutto gesto. Madonna. Che brutto gesto da parte tua, perché hai fatto questa cosa folle? Pur di non fare delle altre cose, sono stata pronta anche a questa cosa. Pensa. Chiara, hai il telefono migliore di tutte le dirette radiofoniche di Radio ZM. Ti si sente da Dio. E indovina perché? Perché è un 33-10, bravo. Bruttissimo. Bravo, bravo. Sono d'accordo. Sono d'accordo, d'accordo. Questo luddismo, questo essere primitivi me lo aspettavo da Riccardo, Chiara, da te ti aspettavo più socialisticamente proiettata verso un futuro fatto di telefoni spaziali e cose meravigliose. E invece niente. E invece no. E la sua telefonata funziona da Dio. E la sua telefonata funziona da Dio, è incredibile. È così. Ma senti Chiara, ma noi ci stavamo domandando... La meno interessante purtroppo è andata così. Non ho capito, scusa. Dico, è un peccato che quella che funziona meglio sia anche la meno interessante, però... Ma smettila, che adesso in faccia, sì. Ascolta. Che adesso infatti torniamo su un punto che secondo me è meraviglioso, cioè ci ripeti com'è il titolo del programma che volevi registrare tu in radio? Perché ne vorremmo magari un altro piccolo assaggio, settimana scorsa era molto interessante e anche questa settimana potrebbe esserlo tanto quanto parimento, direi io. Tanto quanto parimenti, ma guarda, in realtà c'è il buon Ivan che mi ha suggerito un sacco di nomi, ma io non avendo fatto i compiti non ho neanche scelto ancora il titolo, perché la proposta è vasta e veramente ottima, devo dire. Cioè, insomma, io ricordo i nomi che... ricordo un elenco molto lungo e bellissimo, è quello? È vero, perché Lorenzo è privilegiato. storia ha avuto l'anteprima, però sì, ce ne sono svariati che sono veramente notevoli. Sarebbe interessante dargli una lettura. Sarebbe interessante dargli una lettura a questi nomi. Cari miei, purtroppo posso interrompere i fumetti, ma non ho a disposizione i mezzi tecnologici per... Ma sono i mezzi tecnologici che arrivano direttamente da te, perché ho la lista. Mi sa che c'era un po' un trappolone, sai Chiara? Io non lo sapevo nemmeno, ha fatto tutto da solo, mi sa che c'è un trappolone perché sta armeggiando con qualcosa di strano che si illumina sul suo volto. Ecco la lista. Finalmente è arrivato alla lista. Lorenzo si vede che è un tecnico di radio, cioè veramente frizzante nel... Certo, lui è frizzante. Io sono come l'acqua Ferrarelle quando la trovi a metà in cucina, no? Tutta sgasata, che la bevi soltanto di salato. Io direi: esatto, questo elenco è bellissimo. Facciamo che io ne dico una e voi fate un commento di 4 secondi, 5 secondi. Una parola sola. Allora, intanto ringraziamo Ivan Pedode, giusto? Sì, esattamente. Esattamente. Iniziamo col primissimo nome di puntata di programma che c'è in elenco, che è la collezione di francobolli. 5 secondi. Allora, a me piace molto, anche se a me in realtà, diciamo, uno di quelli che per qualche motivo mi aveva convinto di più era, vediamo se tra i primi, adesso non vorrei... Andiamo avanti. Spoilerare. Domande per nonni. Bella questa. Cioè, ce n'erano un paio che mi piacevano a me molto, una era, se non erro, poi aiutami... Sì? Uno era le gondole sul comodino. Aspetta che ci arriviamo. Andiamo sul metafisico praticamente. Andiamo avanti, perché per adesso le gondole sul comodino, posizione 8, è incredibile. Hai visto? E un altro era tipo, non mi ricordo se training per stare d'aspetto o qualche cosa del genere. Training per stare d'aspetto. Ginnastica mentale per braccia rubate, no. Che è molto bello, ma no. Sfoggio di erudizione. Questo è un po' pretenzioso. Questo è un po' pretenzioso. No, perché avrei peccato un po' di hubris, non me la sono sentita. Cosa avresti peccato tu, scusa? Di hubris, Guglielmo. Quella cosa che ti si forma sotto la scena. No, l'hubris è la tracotanza. La tracotanza. Grazie. Lei ha fatto il parini. Tu che scuola hai fatto? Che sei andato a scuola? Triennio di filosofia. Sapientino colpisce ancora. Bello. Perle di fuffa. Perle di fuffa un po' meno bello, ma interessante. Vabbè, ma... No, comunque c'è, se lo c'è, da qualche parte c'è la parola stare d'aspetto. Aspetta che lo troviamo subito. L'università della sedia, questo mi ha fatto molto ridere. L'università della sedia è molto carino. Aspetta, la sala d'aspetto, ricerche di base. Però io volevo in realtà un assaggio del contenuto del programma, non soltanto dei nomi del programma. Ah no, noi stiamo creando hype in questo momento. Esatto. Stiamo creando hype. Ascolta, Guglielmo, però, cioè, cerca di non... Settimana scorsa abbiamo fatto un vago accenno di quest'anno, questa volta diciamo il titolo. La bella cosa che sorprende, anche le vostre madri non ci ascoltano più. Esatto, ormai siamo io e te, e forse Stide ha provato, ma evidentemente il link non va. Ma infatti ho capito che questa è la strategia, cioè pur di non proprio vengo chiamata alle 4:30 di mattina. L'ho trovato. Addirittura, Madonna santa. L'ho trovato, training per sale d'attesa. C'era. C'era. Questa è molto bella. Questa è molto bella. Potrebbe essere, non so, un capitolo di un film di Tarantino. Sti cazzi teca, bello. Buonamente non langue. Questa mi sa un po' tipo di battuta di... Com'è quello del detective? Mi pare che sia di Agatha Christie, quello che c'ha l'aiutante che va in giro a fare le detective e lui sta sempre a casa. Nero Wolf? No. Chiara, confidiamo in te? C'è una balla di fieno che gira in radio. Esatto, non è anche... No, ahimè, non sono molto sul pezzo. Niente, basta, ho interrotto la magia della sera, vai. Però andiamo avanti. Vuoi rifarti una vita? Preparati con noi all'eredità. Bello anche questo, cose che potevate benissimo vivere senza saperle. Esatto, questo è il senso. Questo, diciamo, è il senso, è Guglielmo, esatto. Questa è la sinossi. Ho imparato a dire sinossi, Lorenzo, hai visto che imparo anch'io? Dipendenza da quiz. Come, scusa? l'ha imparato per fare colpo su, su Macio. No, era per fare colpo su Stadio, ma non mi è riuscito. Mi ha dato l'idiota anche stasera. E quindi l'ultimo titolo che hai letto? L'ultimo titolo che ho letto era Dipendenza da Quiz, però ce n'è uno che è Pacciocchi e Quisquiglie. Pacciocchi e Quisquiglie. E anche... Aspetta, c'era, l'avevo perso perché li sto leggendo a ordine sparso. Spremuta di zucca. Spremuta di zucca, bello. Potrebbe essere il programma preferito da Riccardo. Spremuta Raffaello Cortina di Ferro. Raffaello Cortina di Ferro. Cosa vuol dire? Raffaello Cortina penso sia l'editore. Ma chi è? Cioè, cosa ha fatto? Giusto? Direi di sì, boh, non so. Secondo me la Chiara ormai si stava facendo il suo femminile, stava ignorando bellamente, ma questi due idioti posano il telefono sul tavolo e li faccio andare da soli. Finito l'elenco. Ma scusami, ma non è vero? No, diciamo che i tempi frizzanti della diretta c'è da ragionare. In che senso? Scusa, cosa vorresti dire? Che la conduzione fa schifo? No, cioè nel senso, perché potresti avere ragione. Attenzione. Se avere ragione, ci ritiriamo di buon grado in tal caso. Andiamo a condurre no, anche a parte. Già mai. Era che l'hype magari si crea un po' alla volta, diciamo. Non esagerare. Una decina di titoli alla volta. Ci sta. Va bene, allora noi abbiamo letto stasera soltanto i titoli possibili della fantastica prossima produzione di Radio ZM, che erano questi, un programma che comunque è essenzialmente una sticazziteca, una training per salire d'aspetto, ma anche un po' un, non mi ricordo più altri titoli, chiedo perdono, ma arriverà, giusto Chiara, arriverà questo programma? Arriverà, prima o poi. Fantastico. A questo punto noi ti chiediamo... Sì. Cosa? Arriverà, ebbene sì, vedremo con quali tempistiche, ma arriverà, senz'altro. Yeah. Allora ti chiediamo un pezzone da metterci, sappi che verosimilmente sarà anche l'ultimo pezzo della puntata, quindi dacci qualcosa che veramente ci spacca la faccia e ci manda a dormire contenti e felici. Allora, per un'ennesima volta ne avevo in mente uno, ma ascoltandovi, perché per l'appunto ero attenta e stavo facendo i compiti, ho sentito che Pica parlava di un interessantissimo documentario su Filacuti. Ah. E per cui ho pensato, per la gioia di grandi e piccini, di proporvi un esperimento di un musicista di altissimo rango che è Amerigo Gazzaway, il quale fondamentalmente fa dischi di mashup di altissimo livello musicale, tra l'altro, e uno dei primi con cui l'ho conosciuto è un disco che si chiama Fela Soul. Cioè un mix fra Fela Kuti e De La Soul, che sono un gruppo di hip hop fra i più potenti, diciamo, storici. Ci puoi dare una traccia in particolare o vuoi tutto il disco? Sì. Perché se dici tutto il disco ci mettiamo 45 minuti a scaricare. Il pezzo è Feel Good Inc. Ok, la troviamo. Che è una canzone di Gorillaz, tra l'altro. In particolare è un riferimento, è un mashup per l'appunto, e coinvolge la traccia dei Gorillaz, il Good Ink, perché voi sapete che nei Gorillaz c'è uno dei De La Soul. Sì, è vero. Assolutamente, mi ero fermato a una cosa del cantante dei Blur. Tipo. Non conoscevo questo disco, chiaro. È un gruppo che riunisce tanti artisti di gruppi diversi, e in particolare uno di questi è Damon Albarn dei Blur, ma un altro di questi è uno dei tre De La Soul. Quindi, comunque, devo dire, la buzza alle 22. Questo, io spero che voi l'abbiate fatto mentre io non vi ascoltavo, ma non avete parlato, giusto per riempire questo minuto di silenzio che di solito precede le canzoni, di uno dei più grandi diciamo atti di cronaca della giornata di oggi. Oh cazzo, addirittura, cosa dici tutto. Cosa ci siamo persi? Cioè, Britney Spears che chiama alla condivisione dei beni e allo sciopero generale, ma raga, rispetto al Covid, ma raga. Cosa? Ma veramente? No, Chiara, racconta. Ma raga, dai. Cioè, non mi siete assolutamente sul pezzo. Cazzo, no, era un sbattimento per Stalin, antropologia culturale, ma chi lo sapeva, la rivoluzione comunista alle porte. Cioè, Britney Spears ha detto questa cosa? Britney Spears, raga. C'è un post che ha condiviso in cui chiama in questi giorni di crisi globale vicina all'espansione del Covid, a tenersi più stretti alle persone che più si ama, a condividere di più, a condividere i beni e allo sciopero. Ma comunque io trovo che sia sconvolgente questa rivelazione. Trovo ammirevole, quasi a livello anche quello sconvolgente, il fatto che Chiara non soltanto aveva pronto il disco apposta e ce l'ha detta, ma si è anche riuscita a preparare il discorso per evitare il minuto di silenzio in cui noi inventiamo un sacco di cagate mentre tiriamo giù il brano. Cioè, grazie. Madonna, santa, è un quadruplo mortale carpiato arrotato con rovesciamento. E applauso finale. Il giudice tedesco sta piangendo in questo momento. Non ci crediamo. Ma comunque il computer non scarica una mazza, quindi adesso devi inventarci qualcos'altro ancora. Dai, forza, tiraci un'altra notiziona così, dai, vediamo se sei brava come dico. Vi posso dire anche qual era l'altra scelta, visto che tanto l'ultima volta avevate provato a smazzare le mie seconde scelte al buon Cigo, non aveva risposto pur di non farcele sentire. Cazzo, dobbiamo chiamare anche Cigo adesso per concludere la seconda puntata, amica, grazie che ce l'hai detto. L'altra opzione sarebbe stata Weapon of Choice di Fabio Slim. Con un video spettacolare, pezzo, tra l'altro. Vi posso anche dire che film ho visto ieri. Filmone. Che film hai visto ieri? Se non avesse lì Marco che mi tarpa le ali. Madonna. È un film abbastanza azzarro, ma anche un po' così futuristico, distopico. Cos'è? Vai. Repo Man. Chi? Molto bello. Repo Man? Repo Man. Mai visto. Mai nemmeno sentito parlare. Bellissimo. Con Jude Law e il tizio che faceva l'ultimo imperitore di Scozia, che adesso mi sfugge come si chiama. Che faceva il... L'ultimo re di Scozia. L'ultimo re di Scozia. Bravo. Come si chiama? Che film è? Mi sfugge. Ma raga, state dicendo delle cose che non comprendo assolutamente. Vabbè, è comunque un filmone fondamentalmente fantascientifico in cui i due protagonisti si occupano di riscossioni per una società che fa, diciamo, prestiti, in particolare prestiti... finalizzati all'acquisizione di organi umani artificiali. Ah, che e ovviamente storia. Se qualcuno non paga se li va a ripigliare. Ah, così proprio, una chirurgia veloce. Una chirurgia veloce, in poche parole, vanno e si riprendono un cuore. Una chirurgia piuttosto rapida, indolore, se vogliamo chiamarla così. Sicuramente sì. Di quelle che ti lasciano un vuoto dentro, però. Dolorissimo, non lo sentono, però è molto bello. Quindi... Che storia, Repo Man, va bene, allora abbiamo anche il consiglio cinematografico per stasera. Chiara, sei fantastica. Fai da sola la trasmissione, io e Lorenzo siamo qua, ti guardiamo e ogni tanto premiamo play sulle canzoni che ci dici tu, va bene? Va bene. Perfetto. Ciao grazie Chiara. Mille. Buoni fumi. Grazie. Ciao Ness, stacci ciao, bene. Ciao. Scelta da Chiara, Amerigo Gazaway, Feel Good Inc. Che cosa meravigliosa. Cigo, abbi paura perché ci stiamo per chiamare. Arriviamo. Like crap, ladies, ponies at the track. It's my chocolate attack. Shit, I'm sipping in harder. this year. Yeah, been rapping in Harlem this year. Watch me as it gravitate. Ha, ha, ha, ha. Yo, we gon' go down this Motown with your sound. You in the blink. Gon' bite the dust and fight with us. With your sound, you kill the ink. So don't stop. Get it until you chatter. Bene, lasciamo un po' a sfumare la traccia. Ci la bellissima traccia, la bellissima traccia. Esatto. Grazie Chiara. Adesso ci precipiteremo a scaricare tutto ciò che esiste di Americo Gazaway per averlo sul nostro PC. Ah no, vedi che la traccia continua. Ma sì, ma noi ci chiacchieriamo sopra. Noi ci chiacchiereremo sopra. Va bene, il nostro viaggio è stato lunghissimo. Dobbiamo terminare come abbiamo iniziato. E voi sapete già bene come. E semplicemente è stato bellissimo fare questa puntata molto lunga, perché poi io riderò quando stasera Lorenzo dovrà editarlo tutto quanto. Io mi metterò lì a ridere mentre mi mangi i biscotti, lo guardo. Esattamente. Fino a tarda notte. È proprio editare, così. Editare. Oddio, ma già squilla. Però ciao Cigo, buonanotte. Cigo, buonanotte. Buonanotte, compagni. Grazie per Instagram, ciao. Ciao. Ciao. Fantastico. Siamo rimasti sotto in 10 secondi. È il contributo essenziale. Secondo me, se fossimo abbastanza bravi, potremmo arrivare a dire frasi di senso, ottenere risposta sotto i 5 secondi. Guglielmo, è una sfida. Ci proviamo a provare. Dovremmo elaborare bene questa cosa. Se volete elaborare insieme a noi, potete scriverci sui canali Facebook, Instagram, scrivere a Cigo o a chiunque altro voi voleste che fa parte di questo collettivo, che ce lo dirà sicuramente. Questa conduzione è assolutamente poco seria, volge al termine. Domani ci sarà una puntata. Ah già, questo lo fai in chiusura. Sì, lo faccio in chiusura, così lo faccio è una in cosa chiusura. Seria. Domani sera, cioè giovedì, ci sarà un'altra puntata delle Ribelli, tema della serata, femminismo e colonialismo. Davvero? Penso proprio di sì. Non Oddio, lo sapevo. Dovevo dirlo forse. No, però non lo sapevo. Però sei viziato malissimo. Che figata. Esatto, noi ci risentiremo venerdì con delle altre agghiaccianti telefonate. Tanto dobbiamo trovarci qualcosa da dire, perché non c'è Style venerdì, quindi boh. Ma non sarà un problema. In realtà, se rimanete sintonizzati, anche perché domani pomeriggio avremo il piacere di telefonare a Davide Indovino, un compagno e un carissimo amico fratello, che ci parlerà di Peter Sloterdijk, un filosofo, perché ha trovato una chiave di lettura per l'oggi. Molto bella non storia. Non Peter, ma Davide ha trovato su Peter una chiave di lettura. Ok, grazie Davide che trovi chiavi di lettura. Va bene, noi ci siamo. A questo punto Lorenzo ci teneva moltissimo, giustamente, a leggervi un contributo importante. Prego. Intanto mi metti una canzone, anche mentre parlo, mentre vado. Scegli tu. Ti metto Heart di Johnny Cash. Una roba così. Ah, perché Antonio l'aveva messa prima, era quella? No, no, non penso. Ma metti quello che vuoi. Io volevo leggervi appunto il volantino di cui parlava Andrea, che è stato tradotto da delle compagne spagnole in italiano. È arrivato 2 o 3 giorni fa la traduzione e sta girando molto sui social. Io sono un po' spiazzato, nel senso che le cose che sto per leggere già le pensavo prima del Covid. Ora però, a quanto pare, ha più senso ripeterle anche adesso. Appello ai cittadini per evitare il contagio. Sarebbe stato fighissimo se partiva ora la musica, però fa niente. Vai, basta, l'ho fatto partire. Se vedete un venditore ambulante per strada, non chiamate il numero indicato dal governo per segnalarlo.